È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Quando fece il mondo, lo disegnò quadretto, però gli venne tondo. E poi sbagliò dell'uomo il modellino. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino, lo sei solo tu. Quando uno è scemo, scemo pure nettero. Il padre eterno. Ma dove sei, Parenzo? Dove sei? Io ti devo dare del cretino anche a te. Si danno dei cretini. Un ministro dà del cretino a un ministro. Devo dare del cretino anche a te stasera. Sì, non è più un'offesa, è stato ormai sdoganato da chi ci governa la parola cretino, quindi bene. Dove sei? Dove sei? Ma dove sono? Sempre localizzare dove sono, dove c'è lo Stato che controlla. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Vabbè, non vuoi dire dove sei. Qui a destra, no, qui a destra deve andare. Lì. Va bene, allora, Brunetta Tremonti, con Tremonti che dà del cretino a Brunetta durante la conferenza stampa di presentazione della manovra, sta facendo un intervento suicida, è proprio un cretino. Naturalmente la voce di Tremonti non si sente, si percepisce, ma è abbastanza chiara, d'altra parte non ci sono smentite. I correttivi di questo tipo sono correttivi assolutamente, assolutamente sostenibili. Come realizzare questi correttivi? Questi correttivi si realizzano grosso modo attraverso i sistemi che abbiamo. Questo è il tipico intervento suicida, dice Tremonti, è proprio un cretino, rivolgendosi a Brunetta. Poi ancora, a un certo punto Tremonti si rivolge a Sacconi, ma questo è scemo, e Sacconi dice non lo ascolto nemmeno. E ancora, questo è proprio un cretino, il bis di Tremonti su Brunetta. Poi ci sono state le scuse, gli abbracci, le cose, con Brunetta che ha detto non considero i fuori onda. Sono come le intercettazioni. In questo caso, veramente le intercettazioni non c'entrano nulla. I fuori onda sono responsabilità di chi non si accorge di essere inquadrato dalle telecamere. Non era una telecamera nascosta, era una situazione ufficiale della presentazione di una manovra. Dunque non capisco le proteste di Brunetta. I fuori onda non li considero, li considero alla stregua di intercettazioni illegali. E quindi chi mai non ha detto fuori onda, nel senso metaforico, al vicino? Lei che mi ha interrogato quante volte dice ogni giorno al giornale, riferendosi ma a colleghi, amici, eccetera, cose, come dire, a mo' di battuta. Ecco, se fossero pubblicati tutti fuori onda. Beh, in questo caso veramente non è un fuori onda. Cioè, è Tremonti che si mette a parlare e, diciamo, non dissimula nemmeno troppo la sua irritazione ai suoi vicini di banco durante la conferenza stampa di presentazione della manovra. Certamente non sono cose percepite in maniera illegale. Brunetta che poi dice non ho capito perché mi ha chiesto scusa. Beh, questo fa parte naturalmente della sceneggiata successiva. E vabbè, vi voglio far ascoltare però... No, sentiamolo questo Brunetta. Non ho capito perché Tremonti mi ha chiesto scusa. Il resto, come dire, non mi tocca, nel senso che non ho capito perché Tremonti mi abbia chiesto scusa, eccetera, eccetera. Non ho capito sinceramente, siccome non l'ho sentito fuori onda quando avveniva, non ho capito neanche la motivazione. Forse non si riferiva neanche a me. Oggi io e Parenzo eravamo alla presentazione del libro di Scilipoti, Re de Peones, c'era anche il presidente del Consiglio Berlusconi, un omaggio al nostro Scilipoti che a un certo punto ha fatto una sviolinata. È per questo che sentite la musica dei violini, una sviolinata a Berlusconi. La mia è stata una folgorazione quando ho iniziato a parlare col presidente del Consiglio. Bella, qualcuno può crederci, non può non crederci, può fare ironia, non può fare ironia, però nel mio cuore e nella mente ho incominciato a fare delle riflessioni e ho detto, ma forse scusi, mi perdoni come utilizzo il termine, che questo presidente Berlusconi forse in fondo, ma è un'altra persona di quello che si dice, di quello che si parla, di quello che è stato detto, di come è stato descritto. E mi sono posto la domanda, ho incontrato il presidente. Il resto lo sentiremo più avanti, durante la lunga serata della Zanzara. C'è già un ospite con noi, 800 24 00 24, il senatore del PDL Giuseppe Ciarrapico. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta, signor Ciarrapico? Molto bene, molto bene. Dove si trova? Mi trovo a Roma, siamo stati in Senato per il voto di fiducia sino a oggi alle 3. Senta, signor Ciarrapico, insomma, c'è in ballo ancora una vecchia questione di cui lei si occupò ormai praticamente quanti anni fa? 90, 91? Quanti nel anni 91, sono? 91. Quanti anni 90. Sono passati? La famosa mediazione per la vicenda Mondadori. Ora, Berlusconi naturalmente è molto preoccupato per questo risarcimento, però insomma, questa sceneggiata della presentazione di questa norma cosiddetta salva Mondadori, poi ritirata, insomma, lei l'avrebbe presentata questa norma? Non l'avrei presentata, ma soprattutto mi sarei richiamata a un principio di onore che vale pure tra gli uomini, soprattutto tra uomini di qualità, vale Berlusconi non solo, ma lo stesso ingegner De Benedetti, che io conosco, stimo, di cui ne sono amico, anche perché tra di noi c'era un'amicizia importante, quella di Carlo Caracciolo, che purtroppo sì, non c'è. Sì. Ma meravigliato, facemmo un accordo, l'accordo fu sottoscritto tra le parti, fu un gentleman agreement. Vabbè, poi c'è stata una causa, come lei sa, eccetera, il tribunale. Sì, ma è la causa che non ho mai capito. Ma è come se fa un accordo, ci stringiamo la mano con soddisfazione di tutti e poi ci facciamo sopra una causa, mi pare un po' strano. Senta, ma insomma, lei dice non l'avrebbe presentata, ma è stato un pasticcio, no? Comunque, prima presentata, poi ritirata, non si sì, sa nemmeno chi l'abbia presentata. Ma il perché di quella operazione, presentarla, poi ritirarla, ma che serviva? Bastava rifarsi al gentleman agreement, che aveva anche un'efficacia, direi, civilistica. Tale persone. Beh, ma non sarà anche facciamo gentleman agreement? Ormai non c'è più spazio, credo, per un accordo, no? Se ci sarà la sentenza. Vedremo la sentenza, innanzitutto spero che la sentenza non sia della pesantezza di cui si dice. Io ho ancora fede nella giustizia, soprattutto nella giustizia non avvelenata, quindi faccio una telefonata a De Benedetti, visto che è un suo amico, chiami l'ingegnere. No, Caracciolo era sua, era sì, ma anche attraverso Caracciolo, attraverso il principe, erano amici anche con l'ingegnere. Ciarrapico, faccia una telefonata al suo amico De Benedetti e gli dica: mettetevi d'accordo. O no, ormai gliela farà questa telefonata? Io mi limito a fare il senatore della Repubblica. Fedelmente. Già quello è troppo, eh? È impegnativamente, ma non mi voglio andare a rintromettere in cose che secondo me erano pacifiche e definitive. Senta, ma 750 milioni è una bella cifra, è eccessiva secondo lei? Vabbè, queste sono cose che giudicano i magistrati, però insomma, una valutazione si può fare forse, o no? Ma non ho capito dov'è il danno, si era fatto un accordo, l'accordo era stato adempiuto, ripensiamo sopra e cerchiamo di ricavarne il danaro. Vabbè, c'è una sentenza che prova e dimostra che, almeno fino a passato in giudicato, che quel passaggio fu aiutato da una sentenza tra virgolette comprata, insomma, questa è la sentenza che è passata in giudicato, e dunque da qui la rilevazione del danno. Beh, è una storia molto lunga. Comunque, secondo lei non ma c'è più spazio? Comprata, ricominciamo con la storia breve di Meta. Ricominciamo. C'è una sentenza, che c'è una sentenza definitiva. Comunque, secondo lei i due tra i due, tra Berlusconi e De Benedetti, che c'è di fondo? Cioè, si stimano oppure non si sopportano? Ma c'è Repubblica soprattutto. Cioè? Tra i due c'è Repubblica, no? Cioè la guerra di Repubblica Berlusconi, dice lei. Io apprezzo molto Repubblica, soprattutto perché apprezzo Mauro, direttore di Repubblica. Sì. E la Repubblica ci avevo tanti amici, tra cui coincida De Gregorio, che adesso non c'è più, sta all'Unità. Ma stava all'Unità. Stava, non è più direttore dell'Unità da qualche tempo. Sta ancora all'Unità, è andata via. Sì, andata via, la aggiorniamo, comunque non si preoccupa. Da qualche giorno, andata via, però, è vero, due o tre giorni fa. È amica sua la signora De Gregorio? Sono onorato di conoscerlo. Bene. Bene. Senta, le voglio chiedere una cosa. A lei Scilipoti mi sembra mille miglia lontano da Ciarrapico. Ma no, che idea si fa, che si è fatto di Scilipoti? Sai, io dico che ogni parlamentare c'ha la sua vita, c'ha le sue opinioni e c'ha le sue azioni. Io non ho il piacere di conoscerlo, Scilipoti. Sì. Rivendico per lui la sua autonomia parlamentare. No, beh, certo, però insomma, dei responsabili, no? Qualcuno li ha chiamati mercenari, gli ascari del governo, la terza gamba arrivata, diciamo, in maniera un po' rocambolesca, no? Se la piantassimo di intendere la politica in Italia in termini salgariani. Qui siamo veramente a Salgari, o Salgari, come si diceva quando ero bambino. Sì. Quello è Scilipoti, io non ho il piacere di conoscerlo, ripeto, però e dunque non può è un dare parlamentare con la sua autonomia di giudizio e di azione. Sì, eletto nell'Italia dei Valori. E senta, poi... ma è possibile che... lei ha detto sostanzialmente che questa qua di mettere una norma, poi ritirarla, è una sceneggiata che si poteva evitare, no? Un po' di dilettantismo c'è stato, o sbaglio? Ma sa, qui ormai nella politica italiana, più che il dilettantismo, c'era la soddisfazione dell'esplosione del coup de théâtre. E ogni tanto ci lasciamo prendere la mano. Io l'esperienza, purtroppo sto a 77 anni, sono diventato molto prudente. Prudente per dignità della funzione che svolgo. Sì. Però un ministro che dà del cretino a un altro ministro, in conferenza stampa, per carità, sottovoce, però insomma, le pare una cosa... La frutta, il governo è la frutta. In politica non esistono i sottovoci, in politica esistono quello che dici e quello del come ti comporti. Adesso questo particolare non l'ho seguito, quello si è dato del cretino a quell'altro. Tremonti ha dato del cretino a Brunetta. Sì, sì, non l'ho seguita sta vicenda, l'ho sentita così a orecchio. Glielo diciamo noi, però. È sintomo di un malumore che c'ha il governo. Non le pare una roba, no? Un po' da diretta, cioè, per esempio, Tremonti, no? Si dice che sia il dominus del governo, ma si dice anche se nessuno lo può dire chiaramente, che insomma, Berlusconi, i due non si sopportano. I due non si sopportano proprio. Ma che non si sopportino, non ci credo. Tremonti è un uomo di grande valore. Berlusconi ha bisogno di Tremonti e Tremonti ha bisogno di Berlusconi. Questa è la valutazione che faccio io. Dunque, sono un legame indissolubile. No, in politica nulla è indissolubile, dico che è complementare, cioè Berlusconi ha bisogno di Tremonti, Tremonti non avrebbe motivo d'essere se non ci fosse Berlusconi. Allora abbiamo il traffico, torniamo subito, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, non ci mollate oggi perché abbiamo da farvi sentire tutto quello che è successo oggi alla Camera, una cosa pazzesca, Scilipoti, Berlusconi sulla questione Mondadori e non solo. Di tutto. Padre eterno quando fece il mondo, lo disegnò quadretto, però gli venne tondo, e poi sbagliò dell'uomo il modellino, il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino lo sei solo tu, quando uno è scemo. Bene, bene, questa è la Zanzara, naturalmente, 800 24 00 24. Viene avanti cretino la musica, di Lo Banfi, con un ministro che dà del cretino a un altro ministro, l'altro cerca di minimizzare, come giusto che sia in politica, e però dice sono come le intercettazioni illegali fuori onda. Ma prima non è un fuori onda, perché non è un fuori onda. Il governo. Cioè, siamo lì, c'è la conferenza stampa. Di che stiamo parlando? Per cui non è un fuori onda, non è un fuori onda. Senta, Ciarapico, si stupisce del fatto che sostanzialmente Fini è sparito dalla discussione politica, cioè tra i protagonisti, è morto, finito, o sbaglio? Ma sa, le mie opinioni su Fini sono chiare, io l'ho detto in faccia in Transatlantico, gliel'ho detto quando venne al Senato e lui si vendicò con la storia della Chippa, non so se ricordo. Episodio veramente sgradevole, Ciarapico. Però Ciarapico non è che si vendicò, lei disse una cosa. Lei poi, disse poi una fu, cosa fu, vergognosa. Fu costretto a chiedere scusa. No, io non dissi nulla di vergognoso. Io ho le regole mie, morali, etiche e parlamentari. Per carità, la battuta sulla kippa indossata era di cattivo gusto, veramente. Con un retaggio fascista. No, guardi, io. No. Faccio l'editore, ho pubblicato più libri io a favore della causa ebraica e di Israele di quanto abbiano fatto gli altri. Ma scusi, perché ha chiesto scusa dopo allora? Io non ho chiesto affatto scusa, ho detto che avevano interpretato volutamente in maniera incredibilmente assurda. Fu una piccola vendetta di Fini, che è tipico del personaggio. Ma lei disse che Fini aveva indossato la kippa, scusi. Perché vendetta di Fini, scusi, non ho capito. Fini... E venne e disse: Ciarapico va oltre le righe. No, io disse: sei tu che chi ha tradito una volta tradisce sempre. E questa è la mia opinione su Fini: che chi tradisce una volta tradisce sempre. E questa è la sua opinione, ma ormai è fuori da ogni gioco politico, secondo lei? Fini non esiste. Beh, insomma, non esiste. C'è un partito. Il partito? L'1,2%. Ma lei se l'aspettava? Che finisse così. Sì. basta. Io ripeto sempre che quando io affissi per Roma e per l'Italia 30.000 manifesti di fini che faceva il saluto romano, sì, cosa che io quando l'ho voluta fare l'ho fatta dinanzi ai nostri morti, non la sono andata facendo sfilando a Piazza Venezia come faceva il Camerata Fini, allora era il Camerata Fini. Sì. Ma è roba da pazzi. Lui mi rispose che quello non era il saluto romano, era un gesto di saluto, ciao ciao, ma cioè, è tra il cretinismo e l'ipocrisia. Addirittura, è cretino Fini secondo lei? Non è cretino, è un uomo quasi senza spina dorsale e senza convinzioni. Le convinzioni gli sono servite, sta lì a quel posto alla Camera, che se non ci fosse stato tutto questo non ci sarebbe mai arrivato. Ho capito. Tra il cretinismo addirittura, lei, tra il cretinismo e l'ipocrisia, però più vicino al cretinismo o all'ipocrisia? E sono un ottimo frullato di frutta, il cretinismo e l'ipocrisia di Fini. Beh, un uomo che ha portato il movimento sociale dal 4 al 10%, però, amico mio. No, quindi, veramente al 9% ce l'abbiamo portata noi, col sacrificio dei nostri caduti, col sacrificio dei nostri impegni a tutto rischio. Caduti in che senso, scusi? Quelli no, della... quelli della... Ah, sì. Noi senta... abbiamo perso 27 camerati, sono caduti nell'infamia delle Brigate Rosse e dei rossi sulla piazza. Ma lei... scusi, quando? Negli anni 70? Ma... forse dovrei ricordare. No, ma lei sta parlando dei camerati quali? Cioè, camerati. Vogliamo parlare soltanto di Anca Larenzia. Ah, ecco, sì, quelli durante gli anni del terrorismo, dice lei. Durante gli anni. Gli anni del terrorismo, quelli stavano davanti alla sezione. No, ma io dico per intendere il periodo. Per intendere il periodo. Lei è ancora camerata? Esattamente. Ah, questo non l'ha mai rinnegato. Beh. Non ho mai rinnegato. No, però credo, al peggio non c'è mai fine. All'epoca alcuni senatori, quando ci fu la questione della kippah, diversi senatori del PDL, esponenti del PDL vicino alla comunità ebraica, chiesero addirittura la sua espulsione. La sua espulsione dal... Giustamente. Si può chiedere di tutto. Gli rispose bene Berlusconi. Che valevano i comportamenti. I miei comportamenti in difesa di Israele e della comunità ebraica sono stati sempre chiarissimi attraverso le mie opere di editore. Senta, le posso fare una domanda che riguarda il calcio? Lei è stato presidente della Roma, eccetera. Parliamo della Roma. Ma questi americani, che succede? Speriamo che esistano, sai, io ogni tanto ho molti dubbi. Pure questo, però speriamo che esistano, non è male, però. Io voglio bene alla Roma, è stata una mia grande passione. Anche se le ha fatto passare dei brutti guai la Roma, non è che l'ha lasciata in buone condizioni, diciamo. L'ho lasciata in ottime condizioni. Sono andato via pagando tutto e tutti. Ho pagato le limitazioni dei giocatori, ho pagato tutto sino all'ultima lira. Senta, ma ritornando alla cosa, possibile che dalla vicenda Mondadori non se ne esca con un nuovo accordo tra Mondadori e la CIR? Cioè, lei vede possibile, conoscendo De Benedetti e Berlusconi, avendo fatto il famoso lodo, lei è sicuro che alla fine non si trovi magari un accordo? Ma io ho una grande opinione come imprenditore dell'ingegner De Benedetti. E purtroppo oggi manca un personaggio che sarebbe stato forse essenziale, Carlo Caracciolo, che purtroppo l'abbiamo perso. Che avrebbe fatto da mediatore, lei dice? Ma Carlo aveva una grande umanità, era un uomo di grande sensibilità, era un uomo di grandi capacità intellettuali. È l'uomo che quando mi vide aggredito ingiustamente, scese in campo, ma non su Repubblica, sul Corriere della Sera, per dire è ora di finirla, c'era amico, un uomo di tutto rispetto. Senta, vabbè, per chiudere, senatore Ciarapico, tra Brunetta e Tremonti facciamo un po' il gioco della torre, no? Lei chi preferisce? Ha istinto, così, il suo istinto da vecchio? Li preferisco tutti e due. Faccio il democristiano, Ciarapico, su. Tra Tremonti e Berlusconi chi salva? Sempre il capo, no? Ma Berlusconi è il capo assoluto. Tremonti è un uomo indispensabile. Lei ha sempre Mussolini come punto di riferimento, nel senso della sua storia sto parlando, anche adesso non credo, no? Sì, ma in modo intelligente. Mussolini è stato un uomo di grande, un uomo di Stato enorme, un grande legislatore, certo, naturalmente pure lui. Grande legislatore, certo. Qualche fesseria l'ha fatta. Le fesserie Mussolini le ha fatte, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ecco, dopo Mussolini chi viene? Nella sua, diciamo, nel suo Pantheon. Ma io ritengo che Berlusconi sia una grande occasione della Repubblica. Mussolini, Berlusconi, terzo posto? Nel podio? De Benedetti. No, che c'entra De Benedetti? No, beh, non esageriamo. Non esageriamo. Nel podio? Andreotti. Beh, Andreotti ha avuto... Podio, dunque, il podio di Ciarrapico è Mussolini, Berlusconi, Andreotti, oppure Andreotti prima di Berlusconi. E Craxi prima di Andreotti. Ah, Craxi prima di Andreotti. La ringrazio, senatore. Arrivederci. Grazie a voi. A presto. Alle 19:18 la Zanzara in diretta con David Parenzo. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. 800 24 00 24, ci ha raggiunto Gianni Versace. Quale onore. Sono come sta? Soltanto Santo Versace. Santo Versace, Gianni, lo so, l'ho fatto apposta. Come l'ho sta? Fatto apposta. Bene, sempre elegantissimo come si confà a un Versace. Certamente. Che indossiamo, signor Versace? Beh, indossa un Armani, mi pare, no? C'è scritto. Che c'è scritto? Armani c'è scritto. Gianni Versace. Ah, Todo Scaballeros. Esatto. Ma sono le cose più belle, ci sono di migliore. Allora, iniziamo subito. Lei è favorevole alla richiesta d'arresto per il signor Papa? Ma io, da quello che so e come mi sono informato, ho visto che praticamente mi sono espresso chiaramente favorevolmente alla dichiarazione arresto. Telefonino? Spegniamo il telefonino, magari spegniamo, è Papa. Magari è Papa, chi era? Non è un numero sconosciuto. Numero sconosciuto, possiamo spegnere. Sì, spegniamo immediatamente. Grazie. Spegniamo, tutto in diretta. Perfetto. In diretta. Abbiamo spento. Su, ce l'abbiamo fatta. Milanese, anche lui lo arrestiamo. Milanese non ho letto niente. Non ho letto le carte, quindi non però posso. Però così ha intuito, in linea di principio, lei farebbe. No, in linea di principio, noi dobbiamo essere severi. E la severità deve essere maggiore rispetto a chi fa politica. Perché chi fa politica deve farlo come missione. La politica deve essere la ricerca del bene comune, la più alta forma di carità. Quindi chi sbaglia in politica dovrebbe pagare dopo. Dunque, una richiesta di arresto va accolta quasi sempre. Vanno viste le carte, guardato, certo. Si ragiona, ma non ci può essere un principio di difesa della casta. E dunque il fumus persecutionis, da quello che lei ha letto dalle carte su Papa, c'è o non c'è? Ma per quello che ho letto, per quello non le ho lette direttamente, le ho viste in parte, perché tutte le carte c'era la commissione. Ma ho parlato con membri della commissione, ho parlato con dei magistrati che hanno letto tutto, mi sono confrontato. E chiaramente, da quello che risulta, loro mi confermano e io mi sono convinto che c'è una grande base di verità. E dunque ecco. Nessun fumus persecutionis, sicuramente. Non mi pare che sia un persecutore. Faccio un appello ai suoi colleghi che siedono in commissione, che invece voteranno. Qual è l'orientamento? Faccio un appello. Se il voto segreto, che succede? Qui dobbiamo ragionare su un fatto. Ognuno deve essere libero, cioè l'importante è che i vari partiti, come sapete, diano libertà di coscienza. Poi ognuno decide secondo coscienza. Sicuramente molti voteranno per la difesa della casta. Quindi io penso che con un voto segreto, anche da tutti gli schieramenti, anche da quelli che dichiarano voto, probabilmente col voto segreto si vedranno molti più voti a favore di Papa che di quanti non se ne vedrebbero col voto palese. Senta, ma lei con le sue posizioni non si sente un po' fuori dal PDL? Non potrebbe uscire dal PDL? No, io sono stato invitato a far politica e ho accettato volentieri l'invito 3 anni fa perché c'ho per i miei figli e per i nipoti che voglio avere, per i figli giovani che voglio avere e per il paese. Quindi l'ho accettato volentieri, quindi mi sento in dovere, visto come sono stato invitato, di rispettare anche il partito sente un po' estraneo. Non mi sento estraneo, la battaglia è questa. Io allora mi sentirei estraneo alla politica in generale, perché vede, non è che il centro-sinistra sia meglio del centro-destra. Quando si parla dice di affari. Quando si parla di affari, ricordiamoci Telecom. Che c'entra Telecom? Telecom era la più ricca azienda italiana. Che c'entra la politica? Cioè, sì, chi l'ha resa un collaboratore è stata la politica. Chi in particolare? Ma io nome e cognome non ne faccio perché non è presente in potere, però ci fu un'epoca in cui Telecom, che era la più ricca azienda italiana, sul tavolo del presidente c'era l'acquisto di Telefonica, accadde una scalata a debito. Ah, quindi parla di D'Alema, lei sta parlando di D'Alema? Io non faccio nome. No, ma per ricostruire il periodo storico. Io non faccio nome e cognome, l'ha fatto lei. No, lei sta dicendo i farabutti ci sono a destra e a sinistra. Non diciamo i farabutti, diciamo quelli che intendono la politica come un comitato d'affari, ci sono da tutte le parti. Quindi lei dice D'Alema all'epoca. Vi faccio un esempio pratico. Era a capo di un comitato d'affari, questo dice. Questo lo inseguì Rossi, non io. E lei condivide l'analisi di Guido Rossi. Ma io non dico queste robe, non mi permetto perché non sono a conoscenza dei fatti. Però ha citato lei il caso Telecom. L'ho citato perché è una cosa che mi ha un po' sorpreso per come è andata la Telecom. Vi faccio un esempio pratico. Era presidente della giunta provinciale di Milano Penati. Sì. Certo. Penati comprò le azioni di Marcellino Gavio quando tutto sulla Serra Valle per l'autostrada tra provincia, comune e regione avevano la maggioranza assoluta. Va bene? Albertini disse, che era sindaco allora di Milano, se l'avessi fatto io mi avrebbero spiccato un mandato di cattura su quelle azioni, circa 500 miliardi di vecchie lire, si persero subito 200 miliardi, quindi la provincia se ne deve fare. E perché Gavio partecipava alla conquista di una banca. Attenzione che su quello partono le cause, io lo so, no, perché l'ho seguita, lì partono delle fiocco, delle colere, dicendo un fatto, vabbè. Penati comprò delle azioni, delle quote di Marcellino Gavio che non servivano alle istituzioni o al comune, provincia e regione per avere la maggioranza. Andiamo oltre. L'idea è quella che fece sono... un favore a qualcuno. Anche lei. Sì, lei dice, si può dire. Il TG3 presentato dalla signora Began. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinger. Berlusconi: non ho scritto io la salva Fininvest. Tremonti sapeva e ha deciso di non portarla in discussione. Bossi: non è vero. Sì del governo al rifinanziamento delle missioni, ma riduce spesa e uomini. La Lega, merito nostro. Napolitano, no a ritiri unilaterali. Tremonti, senza pareggio di bilancio è il disastro. Trichet, bene la manovra, ma resta l'incertezza sull'ammontare degli interventi. Durissimi sulla manovra gli enti locali, con il governo è conflitto istituzionale profondo. Urgentissimo un incontro con Berlusconi. In Gran Bretagna, travolto dallo scandalo intercettazioni, Murdoch chiude News of the World. Aveva spiato per anni centinaia di persone. Inviata alla Camera la richiesta d'arresto per Marco Milanese, deputato PDL, già coinvolto nell'inchiesta P4, perquisizioni a Roma. Santoro, addio alla RAI. Per il collegio dei sindaci è valido l'accordo tra la TV pubblica e il conduttore di Anno Zero sulla sua uscita dall'azienda. Padre Eterno quando fece il mondo, lo disegnò quadreto, però gli venne tondo. E poi sbagliò dell'uomo il modellino, il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino non sei solo... La parola cretino sdoganata in politica da questo video diffuso oggi da Repubblica, bisogna dire, in cui Tremonti... Non è che ci sono le telecamere nascoste, signor Santo Versace, non ci sono le intercettazioni illegali, come dice Brunetta, e c'è il fatto che un ministro è così, nemmeno troppo di nascosto, dà il cretino a un altro ministro. L'hanno tanato, è stata una bella scena. Ragazzi, tutti capite di sbagliare, molto spesso. Chi ha sbagliato? Chi è più cretino? Ma hanno sbagliato un po' tutti. C'è anche Tremonti cretino a dire cretino? Hanno Oggi Crosetto ha detto il vero cretino è Tremonti. Sì. È tornato. Ma Crosetto è tutti contro me... tutti ormai, eh? È tutto Crosetto finito, Versace, è tutto lei lo sa che è tutto non finito. Non è finito niente, è sempre così. Berlusconi, ragazzi, è tutto finito. È finito, lo dica. No, per quanto mi riguarda, ragazzi, mi dicono, non si dovrebbe fare da parte. Mi dicono che sia immortale, che è fino a 100. Ma lei quanto è deluso da questa politica che è inconcludente? Quanto è deluso? Sono molto deluso da come la politica sta andando nel suo complesso, ma riguarda lo schieramento globale della politica. Però anche da Berlusconi un po', un cicinin. Ma diciamo che si poteva lavorare di più e meglio. Ecco. Dunque, da 1 a 10 quanto è deluso? 11. Ah, molto Sulle agenzie. Versace, due punti, sono molto deluso da Berlusconi. Dalla politica, non da Berlusconi. Da Berlusconi direi praticamente un pochino deluso. No, molto. L'ha detto. Si parla con Versace. Non è un dramma, Berlusconi non se la prenderà con lei. Non se la può prendere nessuno, perché non dipendo da nessuno. Senta, ma lei è passato nel 2009, ha dichiarato 5 milioni di euro nella dichiarazione dei redditi da deputato, nel 2010 a 604.067, un crollo pazzesco. Che è successo? I 5 milioni, dipende dai dividendi, perché io non ho uno stipendio da presidente della Versace, uno stipendio da parlamentare che all'incirca superano gli 800.000 euro l'anno, quindi è strano che sia uscito 604. Poi quando ci sono i dividendi aumentano, quest'anno per l'anno in corso sarà su 1,7-1,8. Che ci fa con lo stipendio da parlamentare? mantengo i miei assistenti, mantengo l'ufficio, lo spendo tutto e lo investo sulla politica, perché io sono tornato... Cioè iniziative, tutto? Tutto quello che mi serve fare lo spendo, fortunatamente posso permettermelo, questo sono avvantaggiato. Siccome voglio fare politica fino a quando respiro, fino a quando campo, mi hanno invitato in politica 3 anni fa e non si libereranno di me più. Ah no, lei si ricandida... Nonostante non, fatto è questione non è questione di ricandidarsi o essere deputato o senatore. Io voglio impegnarmi perché il paese cambia. Io quando ho accettato... Ma qui non cambiano manco le province, non riescono a cancellare. Qui è un problema, io sto invitando i cittadini, gli imprenditori e gli altri a occuparsi di politica 24 ore al giorno, non per occupare i posti di potere, ma per far sì che la politica cambi. Io sto insistendo su un fatto, nel settembre del 2008 io mandai un documento di Trasparenza, l'Organizzazione Mondiale contro la Corruzione, dove avevo fatto notare che 50 miliardi di euro l'anno, parliamo del 2008, andavano ai corrotti intorno alle istituzioni e alla burocrazia. Quest'anno sia Trasparenza dal 2010 e la Corte dei Conti hanno detto che siamo aumentati a 60 miliardi di euro che vanno ai corrotti. Quindi noi pensiamo 60 miliardi di euro che vanno ai corrotti. Pensate alla sanità. Quanto costa e quanto dovrebbe costare con un miglior servizio? Ma perché non l'avete fatto? C'era una maggioranza ampia. Ma la sanità, nessuno è in grado di fare sanità. Ma parliamo delle province, perché non le vogliono abolire? Nessuno le vuole abolire. No, cioè, no, nessuno le vuole abolire, è diverso. C'è la casta di centrosinistra e di centrodestra. Diciamoci, io... No, la casta, io come la chiamiamo? Come la chiama? Ma non si può usare il termine cosca perché è un termine che ci rileva. No, non lo dobbiamo usare. Lei è un paraguru, Versace. No, non si usa dice, non si può usare il termine cosca perché però intanto l'ha usato. Ma diciamo, il centrodestra... No, non si può usare. Quale termine non si può usare? Cosca, non cosca. Si può usare. Non si può usare. Quella di centrodestra o di centrosinistra per me pari sono, vista da imprenditore cosche, da cittadino. Due cosche. No, assolutamente non usiamo questo termine. Non si può. Perché non si può usare, giusto? Il termine. Il gruppo. Diciamo il termine. Non si può usare. L'hai detto tu. Cosca, non si può. L'hai detto tu, però non è. Sempre io. Dico abbiamo la borsa, senta un po' quello che succede in borsa. 800 24 00 24, torniamo subito. Il Padre Eterno allora un po' sudetto si tolse uno stivale e fece il nostro stato ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il padrone al contadino. Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, la parola cretino che oggi è stata sdoganata da Tremonti, che per ben due volte così ha apostrofato il suo collega Brunetta. Dei costi della politica parleremo tra poco con Versace. Voglio farvi ascoltare Scilipoti che fa una sorta di autocelebrazione. Dice: sono stato in Brasile e ho fatto 22.000 visite insieme ai miei collaboratori nelle favelas. Ma questo Scilipoti è quello che ha fatto 22.000 visite insieme ai suoi collaboratori nelle favelas brasiliane. Questo Scilipoti è uno che ha scritto 12 libri. Questo Scilipoti è quello che ha avuto la medaglia Tiradentes e la cittadinanza carioca e la Pedro Ernesto per il lavoro che ha fatto nello stato di Rio de Janeiro. Cos'è la medaglia Tiradente? Ma cos'è? Ma cos'è la medaglia Tiradente? Penso che la diano ai dentisti che estraggono i denti. Dai, ma lei è alleato di Scilipoti, Versace è una persona per bene. Io sono alleato del cittadino italiano. No, anche di Scilipoti. Io lo vogliamo ricordare, anche posso di Scilipoti. Scili non è si sente un po' l'imbarazzo essere alleato di Scilipoti? Ma io non mi sento in imbarazzo perché Scilipoti è una persona molto simpatica. Poi c'ha il Tiradente, figuriamoci. Cioè, in tutti gli schieramenti esistono che... Ci sono degli Scilipoti? Esattamente. Cioè? Ma poi Scilipoti per me è una persona che... Grazie. Lei ha detto in tutti gli schieramenti ci sono gli Scilipoti. Cioè. Che in tutte le famiglie ci sono dei cretini. Ci sono le regole vere, dice lei. Offendiamo Scilipoti perché mi è molto simpatico. La sala di lettura delle suore Luigine, anche oggi, anche questo è venuto fuori oggi. È stato meraviglioso comunque oggi. Voglio, ora mi ricordo mentre che sto parlando con voi, che ancora sono in vita e spero di restarci tantissimo. Ma in Sud America, in modo particolare nella città di Juazeiro in Brasile, mi è stata data una sala di lettura porta il mio nome, perché insieme alle suore Luigine abbiamo raccolto dalla strada 100 bambini senza padre né madre. Okay, questa è sicuramente una cosa molto seria. Io oggi ha ricordato tutti i suoi numeri perché dice mi hanno denigrato, ma non sanno nemmeno quello che ho fatto. Voglio dirvi una cosa molto importante. Scilipoti non è uscito a dicembre dall'Italia dei Valori, lui è Razzi. Lui e Razzi già 6 mesi, 7 mesi prima volevano uscire dall'Italia dei Valori perché non sopportavano di stare lì. Però l'Italia dei Valori sono stati eletti. Ma da qui a fare una conferenza stampa con Berlusconi? Ma tutti quelli che sono usciti dal centrodestra per motivi diversi da liberal democratici. Allora, se vanno in un senso sono bravi, se vanno nell'altro senso sono cattivi. Scusate, ma il governo D'Alema fu formato anche con il contributo di gente eletta dall'altra parte. Da Mastella e da Mastella, eccetera. Cidipoti, Berlusconi è una persona per bene. Sentiamo. Mi sono accorto di tante cose in questi 5 mesi, che il presidente Silvio Berlusconi è una persona per bene. È una persona che gli italiani dovrebbero ringraziare, ma lo dovrebbero ringraziare anche coloro i quali stanno dall'altra parte della barricata. E dovrebbero avere rispetto per delle persone che hanno. Bene, siamo qui 800 24 00 24. Adesso metto in onda anche qualche ascoltatore. Però insomma, signor Bersace, questa storia dei 750 milioni di euro e poi non so quanti saranno in appello, insomma, Berlusconi a un certo punto dovrà pagare, se condannato dovrà pagare. Ma io spero che non paghi niente, perché in quella storia, io la conosco molto bene, a pagare dovrebbe essere De Benedetti. Addirittura. Versace. Sì, sono convinto. I giudici dicono il contrario. Ragazzi, anche i magistrati a possono... A pagare dovrebbe essere De Benedetti. Anche i magistrati possono sbagliare. Ma c'è una sentenza comprata. Ma lei sulla base di che cosa dice? Di quello che fu l'operazione d'allora, di quello che erano i valori e tutto il resto. Non c'era motivo di dare questa sentenza, neanche di fare questa causa. Questo ci fu un accordo preciso. Allora, quando ci fu il discorso, ricordiamoci che la signora Formenton pare che fosse amica di Carlo De Benedetti. E allora? E quindi ci fu un accordo di un certo tipo, ma poi ci fu una maggioranza giudici, diversa. Però hanno senza dimostrato... ritornare, senza ma ritornare. Sai, su quel discorso lì, di 3 magistrati di allora, soltanto uno pare che fosse coinvolto. Gli altri 2 erano magistrati indipendenti e hanno confermato che avrebbero comunque votato in quella maniera. Cioè, dunque, secondo lei dovrebbe essere De Benedetti a pagare addirittura? Ma diciamo pari, 0-0 e palla al centro. Prima dice che De Benedetti... Se c'è da pagare, che paghi De Benedetti. Non che cosa scuola. Dovrebbe pagare De Benedetti? E gli eventuali danni. Danni di che cosa? Dell'inchiesta? Di tutto il processo che si è fatto. Che non è, non ma i danni li ha subiti lui, che non ha non, avuto non, quel io bene? Io non credo che abbia subito comunque, danni. Comunque, se verrà condannato... Berlusconi. Lo vedremo. C'è la Cassazione ancora, c'è tanti gradi. Ma quella norma era giusta? Quella lì? Ma quella norma era sbagliata nel tempo, ma è giusta partendo da zero. Perché non 20 puoi, milioni di euro. Devi partire da zero e ovviamente il debitore deve dare garanzie. Cioè, in questi casi, quando un tribunale... Però non la puoi mettere adesso, no, all'ordine del giorno. È un po' sospetto, no? Norma d'azienda. Va fatta a parte, non va fatta con decreto. Va fatta a parte. Io sono convinto che il discorso... Io vivo nelle imprese, quindi può capitare che un magistrato condanni un'azienda e possa anche sbagliare in primo grado, perché poi la Cassazione cambia, anche il secondo grado e il terzo grado cambiano situazione. Questo può accadere. Quindi ci vuole la garanzia, perché fino a quando la sentenza non è definitiva è difficile renderla esecutiva. E comunque, se la rende tu devi pretendere le garanzie di colui che deve pagare. Se dà delle garanzie, delle funzioni o d'altro, aspetti la sentenza definitiva. Va bene, 800 24 00 24, qualche ascoltatore. Riccardo da Padova, buonasera signor Riccardo. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Allora, premesso che qualsiasi trasmissione televisiva o radiofonica è libera di dire nei limiti della libertà di opinione e di rispetto reciproco, secondo me vorrei fare una piccola critica sugli ultimi interventi che avete fatto sul fatto che Tremonti avrebbe detto cretino a... No, avrebbe a... detto, ha detto, non è che avrebbe sì. detto. Non sì, no, ha ragione, l'ha detto, ok, però vabbè, l'ha detto come, diciamocelo, insomma, chi è che non l'ha detto, magari un collega, un capo, chi per esso. Sarebbe stato più grave, a mio avviso, se l'avesse detto in un'intervista pubblica ufficiale. Non è che stiamo dicendo che è crollato il mondo, occuperei uno spazio radiofonico per cose un po' più, magari, a mio avviso, un po' più importanti sul fatto della manovra, degli aspetti positivi e negativi che può aver avuto. Non è una trasmissione di approfondimento questa qua, è una trasmissione che parla di politica, ma non è che approfondiamo i singoli temi in maniera così forte. Se ancora non l'ha capito, è meglio che si metta in questa lunghezza d'onda. Detto questo, Riccardo, non ne stiamo facendo un dramma. È un ministro che a un certo punto, durante una conferenza stampa, pensando di non essere ripreso, forse ha dato del cretino ad un altro ministro. Ecco, ma Riccardo, volevo dirti che comunque stiamo parlando seriamente anche del fatto che ci sono 60 miliardi di euro che vanno ai corrotti e quindi c'è una battaglia da fare contro la corruzione, che con quei soldi ha voglia di sistemare il bilancio dello Stato. Abbiamo detto anche i prima costi della politica, qual è abbiamo, la cosa abbiamo, più grave? Abbiamo, ma questo governo ha fatto poco. Per fare delle situazioni per abbattere i costi, io sono deluso dalla politica, non da questo governo. Anche da Berlusconi, anche da Berlusconi. No, da sì. Berlusconi sul piano personale perché? Sì, perché? Perché non mi inviti, non mi fai fare il capolista in Calabria, mi inviti in politica per poi non darmi uno spazio anche di consigliere o un ruolo di poter lavorare effettivamente. Da più spazio a Scilipoti che a Versace. Io sto lavorando. Scusa, come ma gliel'ha detto questo a Berlusconi? Certo che l'ho detto. E lui? E aveva sempre detto sì, sempre sì. Promessa comunque, a tutti. Il discorso è questo. No, però scusi, voglio restare. Io personalmente sto lavorando moltissimo e mi sto impegnando. Sono anche qui e ho accettato il vostro invito per parlare proprio dei costi della corruzione, dei 45 miliardi che vanno dalle imprese che invece possono essere usate diversamente, tolti i 15 che vanno ai trasporti e alle ferrovie, gli altri 30 potrebbero essere utilizzati molto meglio. Sono qui per dire che se prendessimo lo stesso provvedimento che hanno preso in Germania, cioè che non ci possono essere comuni sotto i 25.000 abitanti, risparmieremmo 5 miliardi e mezzo. Ma lei parla, dice cose giustissime, ma parla come un uomo dell'opposizione. No, assolutamente no. Le province, non è vero. Qui per fare ma dice delle cose sensate. Per fare queste riforme ci vuole l'impegno dell'opposizione di turno, perché la maggioranza di turno non le farà mai, perché qui il problema è di tutta la casta nell'insieme. Il PD ha votato contro l'abolizione delle province, non ci pigliamo in giro. Sì, il PD e la sinistra ha voluto 42 anni fa che si facessero le regioni. Tutte le leggi di spesa che hanno disastrato il bilancio pubblico, la sinistra le ha sempre votate. Ragazzi, studiamo. No, il PC si astenne all'epoca. Le regioni hanno preteso le regioni perché hanno voluto le regioni che hanno le ma queste cose gliela dite in faccia a Berlusconi o no? Ma le dico a tutti, io al presidente del consiglio, ma anche agli altri colleghi, dico anche che io sono stato ufficiale di cavalleria esattamente nel luglio del 71. Io arrivavo a Palmanova il 10 luglio a diventare sottotenente di cavalleria. Va bene, e mi sono reso conto 40 anni fa come l'esercito aveva un senso allora in quella maniera, cioè Cortina di Ferro, Patto di Varsavia, Muro di Berlino, Jugoslavia, aspetta un attimo. Quindi quell'esercito schierato in quel modo aveva un senso. Oggi come oggi sono anni che predico che l'esercito andrebbe rischiarato diversamente, principalmente a sud, come supporto delle forze dell'ordine e fermo della protezione civile, perché noi li paghiamo tutti i giorni dell'anno e mi devono lavorare 365 giorni l'anno. I soldati? Tutti quelli che prendono un salario, noi compresi, devono lavorare e produrre a sufficienza. 365 giorni, basta vacanze. Il giusto. Poi, scusa, il genio militare, ma lo posso usare in tante maniere. Ma sai cosa se diventa per la protezione civile e non lo usiamo con intelligenza? Ho capito, però ufficiale... Ma quando Berlusconi dice queste cose, Berlusconi dica la Russa, ascolta o no? Ma io queste cose le ho dette. Ma quando lui ascolta, dice sì. Sì, però il problema diventa un altro, che poi... Giustamente risponde, io non ho il 51%. Primo. Ancora questo 51%. Sì, ma devi. Vabbè. Scusa, o sei in regime dittatoriale, tu decidi e fai. Ho capito, però basta. Sì, la democrazia ha questi problemi. Ma perché negli altri paesi riescono? No, solo la democrazia italiana ha questi problemi. In Francia e in Germania un governo si assume la responsabilità di fare riforme impopolari. Viva la Thatcher! Viva la Thatcher! È stata straordinaria. Berlusconi non è la Thatcher. Viva De Gaulle! Viva Chirac! Vedi? Viva Mitterrand! Vedi, in Italia, ragazzi, la nostra storia ci dice che abbiamo avuto il più grande partito comunista dell'Occidente. Non esiste più, però non esiste. Scusi un attimo, c'è Berlusconi Scilipoti. Adesso ci torniamo sopra. Io voglio sapere da lei. Lei ha detto: Berlusconi mi fa fare il capolista in Calabria. E poi? Sostanzialmente nessuna possibilità di lavoro all'interno del governo, all'interno del consiglio o come effettiva all'interno del partito. Ho chiesto di lavorare anche dentro il partito, quindi sto lavorando da semplice deputato. Non se la fila ho nessuno. Presentato ai vertici del partito, dico ai vertici del partito non mi hanno domande mai ascolto, perché certe stupidate non avrebbero fatte. Cioè, anche quando si trattò di rompere confini, ho sacramentato anche un'intervista al Corriere della Sera del 3 luglio, in cui assolutamente assurdo, non lasciamo spazio ai piromani, perché i piromani quando fanno gli incendi fanno danni. E chi è il peggior piromane, chi è stato? La russa, diciamo la verità. No, io non lo so se è russa o non Chi è? No, la russa. È interista, non posso attaccarlo. Come lei, anche lei interista. Ha visto che sta succedendo un casino tra l'Inter. Fagli sentire ieri cosa ha detto il tuo amico Mughini. Ma Mughini è un settario reazionario. Ma è un numero uno Mughini, però. Mughini lo sta... Senta. A sentire alcune dichiarazioni di tifosi dell'Inter, l'ultimo il ministro La Russa, ma davvero loro sentono quel cosiddetto 14° scudetto di merda e di cartone, lo sentono come uno scudetto di cui vantarsi, quando entrano in sede il fetore di quello scudetto, non lo sentono, fetore di quello scudetto. capito? Ha sentito bene? Ha capito? Posso rispondere? Sì, sì, dica. Mughini, se ragionasse sugli scudetti della Juve, noi possiamo dare indietro quello, ma ce ne diano almeno altri tre. Alla Juve bisognerebbe togliere 10. C'è quello della Roma. Pensate, sta dicendo una cosa incredibile. C'è quello del Parma, c'è quello del ce n'è tanti. Ragazzi, andatevi a studiare le situazioni. No, ho capito, ma rimaniamo al merito. Scusi, non è che brigante e mezzo. Dovrebbero restituire, la Juventus dovrebbe restituire 10 scudetti. 5-6 sicuro, ma di quelli che mi ricordo io. Dunque, gli Agnelli rubavano gli scudetti. Ma no, gli Agnelli non erano, in quel caso c'era un'altra gente che se ne occupava. In molti casi gli Agnelli non erano coinvolti nella società, erano solo azionisti. E allora? Ragazzi, adesso però rivendicano, Agnelli rivendica, Andrea Agnelli rivendica. Ma ognuno ha il diritto di dire quello che gli pare, c'è libertà. Com'è Andrea Agnelli? Com'è una definizione per Andrea Agnelli? Io non lo conosco. Ecco. Sì. Non lo conosco, non ho il piacere di conoscere. Però cosa pensa di Andrea Agnelli? Giriamo la domanda. Cosa penso? Per il fatto che di come si sta comportando su quello scudetto, secondo me non penso poteva evitare, perché lui dovrebbe sapere la storia, dovrebbe sapere chi è Moggi, chi era Giraud e tutto il resto. Questo lo sanno tutti. Chi sono? Allora vi spiego una cosa molto importante. Come lo definisce Moggi? Io due anni prima che due o tre anni prima che esplodesse lo scandalo Calciopoli, io dissi, uscì sulla Gazzetta dello Sport, che faceva più danni Moggi in Italia che Totò Riina, perché Totò Riina è un criminale che viene attaccato alla magistratura, mentre Moggi passava per un vincente. Io dissi in una conferenza Moggi peggio stampa, di Totò Riina per l'aspetto comunicazionale, perché Totò Riina sappiamo tutti che è un criminale da combattere, da arrestare e mettere in galera. Invece Moggi passava per un vincente. E noi sapevamo già allora, tutti sapevano, perché io l'ho detto anche presente a Bede, presente il vicepresidente allora? Del CONI, dissi chiaramente, se c'erano queste robe, che noi cittadini normali sapevamo di come andavano certi... Ma oggi la porta in tribunale per la paragonata da Totò Riina. No, non l'ho detto, ho detto che... Ho detto che Totò Riina si sapeva che era combattuto dalla magistratura, allora diciamo... Lei ha accostato il nome di Moggi a Totò Riina. Ho detto c'è che Totò Riina era un criminale dove c'era la magistratura. Moggi invece passava per un vincente, veniva portato ad esempio come vincente, invece sappiamo cosa c'era dietro, tant'è vero che è stato radiato dal calcio. Quindi Moggi era un cattivo, passava per un vincente, era invece uno che non faceva delle cose in ordine. Beh, Andrea Agnelli però ci collaborava, lo difende. Ma Andrea Agnelli non credo che a quell'epoca, mi sembrava un po' molto giovane per occuparsi di calcio a quell'ora. Sa come come si dice che Agnelli definisse Moggi, no? Sa come lo diceva? No, cosa diceva? Lo stalliere del re deve sempre frequentare il ladro di cavalli. Sempre. Lo diceva lui, quindi l'ha detto lui. No, ma lo diceva Gianni Agnelli. Qualcuno dice che. Se lo diceva Gianni Agnelli, è tutto chiaro. Lo stalliere. Cioè, in che senso è tutto chiaro? È tutto chiaro che praticamente c'erano molte cose illegali che non andavano bene. Com'è una battuta. C'erano delle grandi illegalità. Forse non vera. Manco attribuita a lui. Bene, 800 24 00 24. Qui abbiamo picchiato durissimo, pure con Berlusconi. Ma perché non la fanno? Non le dà un incarico di qualche tipo? Ma non lo tipo? So, probabilmente non mi ritiene all'altezza. Ho poca esperienza, non ho l'esperienza. Faccio un appello da qui, presidente. Ma no, non faccio nessun appello ormai. Ormai è deluso. Io non sono deluso per niente dalla politica. Solo voglio fare da Berlusconi sì, però diciamo la verità, da Berlusconi sì. Ma per quanto mi riguarda personalmente sì. Tranquillamente sono deluso per come si è comportato nei miei confronti. Molto male, ma diciamo, probabilmente nel suo criterio lui ritiene che non sia adatto a certi ruoli. Cioè l'ha fatta candidare, l'ha messa lì capolista e poi via, dimenticato in uno sgabuzzino. Esatto, questo... no, allo sgabuzzino no, perché non ci sto negli sgabuzzini, sto all'aria aperta. Sono libero. Ricchezza, non ho mille ricchezze, io sto all'aria aperta. Male. E poi, io sono a favore della ricchezza. Io sono un combattente, per cui non mi fermo mai. Lui è un... Io sono a favore del mercato, della ricchezza, e benessere. Però voglio far notare una cosa, che non sono mai mancato, nonostante tutto, il mancato rispetto nei miei confronti, fatto tutti i voti di fiducia per rispetto al mandato e per rispetto a come sono stato invitato e eletto, però sono molto deluso da come si sono comportati nei miei confronti sia il partito che il presidente Berlusconi. Ma il partito chi, per esempio? Chi è quello che proprio non l'ha emarginato? A me non mi emargina nessuno. Tanto no, emarginare nel senso io ritengo che poteva essere valorizzato diversamente. Non la chiamano mai, nessuno la chiama mai del partito, mai. Non hanno mai chiesto un parere, quindi nessuno la telefona mai. Assolutamente, se ci sono stati qualcuno telefoni a Versace. No, mi telefoni nessuno, perché non ricevo più telefonate, non mi interessa. Ma scusi, allora perché non esce dal PDL? Perché sono stato eletto nel PDL, per uscire ritengo di dovermi dimettere da deputato, e siccome ritengo che posso lavorare molto bene come deputato, non ritengo giusto dimettermi. Però non si sente più la libertà, è stata una tentazione. Ma io non sono stato mai tentato, perché per come sono fatte le elezioni, per come sono stato invitato, ritengo mio dovere restare nel PDL. Se per uscire dal PDL devo dare le dimissioni. Il PDL è finito, è morto secondo lei? No, assolutamente no, si può rilanciare alla grande, basta che diventi realmente il partito degli onesti. Malfano ce la può fare o no? Ma il partito degli onesti, lo diceva la Malfa, è finito malissimo, cioè non è, può essere no, una la bandiera. Malfa non è finito malissimo. Beh, no, insomma, penso, Ugo, all'epoca Malfa, sì. No, la Malfa figlio. Ma sai, chiaramente il partito degli onesti... La cioè lei tra Cosentino e De Magistris, chi preferisce? Dice, lo dica qua, mi sta guardando in non solo vede, tra Cosentino e De Magistris, mi dica la verità che esce. Io sono l'elezione di Pisapia, sì. Di De Magistris non mi ha creato nessun disturbo, anzi, oh. Anzi mi ha fatto sotto certi aspetti aria fresca piacere. A Milano avrei votato Pisapia lei? No, io ho votato Moretti. Però il fatto che abbia vinto Pisapia non mi ha disturbato, perché a Napoli, a Napoli avrebbe votato De Magistris lei, però che a Napoli nel ballottaggio per De Magistris e Lettieri non ho votato a Napoli, probabilmente avrei votato Lettieri per ordine di per ma no no non per ordine, perché sono coerente col ruolo che c'è. Però devo dirvi che per quanto mi riguarda l'elettore ha sempre ragione, quindi se ha fatto questo vuol dire che questo era giusto. No, lei, sfugge la domanda principale, tra De Magistris e Cosentino chi buttiamo giù dalla torre? Me lo dica. Che buttiamo giù dalla torre? Vi dica la verità. Bassolino. No, ma vabbè, c'è, ma non, è c'è facile, così, non c'è sulla torre. Non c'è sulla torre. Ci sono due, De Magistris, Gigino, il sindaco di Napoli, e Cosentino. Coordinatore, eccetera. Quello Versace che sappiamo. Che fa? Che fa Versace? Lei lo so quello che vuole fare, ma non me lo vuole dire. E poi ride. E poi ride. Chi buttiamo giù dalla torre? Chi buttiamo? Su. Giù dalla torre? Sì. Dica nessuno dei due. Ma no, ma non è possibile. No, no, allora, no, no, non è possibile. Allora facciamo così. Su quella torre ci sono Papa, Cosentino, Milanese e De Magistris. È un assedio, no, cosa no, fa Versace? Cosentino e De Magistris. Versace cosa fa? Si butta lei, che fa? Le spiego. De Magistris è stato eletto adesso e quindi va salvato, perché De Magistris è allora buttiamo giù Cosentino. Non butto giù gli altri, ma non buttare giù, ammazzare De Magistris. Io mi auguro che tutti capiscano quanto è importante il riscatto di Napoli. Spero forza De Magistris, lo dica, forza De Magistris. Spero che lo capisca anche la Lega Nord, perché il riscatto di Napoli sarebbe il riscatto del sud e dell'Italia. Dunque, quindi forza De Magistris e Pisapia. Forza De Magistris e Pisapia. Dico forza ai sindaci, chiunque sia. Anche De Magistris e Pisapia. In particolare a De Magistris, perché ha una città difficile. Quindi io, qualunque cosa posso fare per Napoli, la faccio volentieri. Dunque, tra De Magistris e Cosentino, buttiamo giù dalla torre il signore. No, io da me Cosentino non lo butto giù alla torre, perché non lo conosco a fondo. Vabbè, e non ho studiato. Posso dire una cosa? Versace, santo subito! Versace, santo subito! Se questo lo dite voi, mi va bene. Grazie, grazie, grazie a Santo Versace per essere stato con noi. Ci sentiamo dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Il Padre Eterno allora un po' sudetto si tolse uno stivale e fece il nostro strato. Eccoci, 800 24 00 24. Caro Parenzo, sì? Dopo questo sfogo del signor Versace, santo Versace, santo subito Versace, contro Berlusconi, insomma, ha detto sono molto deluso, non mi consulta, mi ha fatto capolista in Calabria, poi non mi hanno fatto fare nulla per mi tanti anni. Mi ha chiuso in uno sgabuzzino. No, lo sgabuzzino gliel'hai detto tu, in realtà. Lui non si è sentito, no? Proprio chiuso in uno sgabuzzino. Io ho grandi idee, i costi della politica, le cosche di centrosinistra e di centrodestra, il partito degli onesti, eccetera, eccetera. Cosentino, Papa, Milanese, vabbè. Cosa? Vabbè, comunque, quello è. Prendiamo vabbè. Qualche ascoltatore e poi vi presento un altro ospite. La signora Loretta ci chiama da Napoli. Buonasera, signora Loretta. Buonasera, buonasera a tutti. Dica, allora, dica. Brevemente, per non levare spazio insomma agli altri, volevo ribadire insomma una cosa che il signor Perenzio, che tra l'altro io ammiro molto, ha detto l'altra volta, cioè che noi di Napoli dovremmo metterci con la scopa insomma a spazzare, sì, no, rimboccatevi allora le maniche e date un contributo anche voi, su. Beh, ma lo diceva, sì, in senso io, allora, no, ma io fossi cittadino di Napoli, dire, allora il mio contributo di cittadina lo davanti a casa mia non voglio vedere immondizia, cioè se lo Stato non provvede, io davanti a casa mia non voglio vedere l'immondizia. Quando sono stato a Napoli e vedevo davanti alle case l'immondizia, io sarei sceso giù con mia moglie e mia figlia. Ma non è compito mi tuo, sarei però, rimboccato le maniche tuo, lo dico ai napoletani. Io capisco la tua polemica con l'ascoltatore l'altro giorno, rimboccatevi non è che le maniche, su. Non è che sia compito tuo, cioè non è compito tuo quello di prendere la ramazza e andare, dovrebbe essere un compito delle istituzioni. Ma certo, ma se io davanti a casa mia ho la monnezza e per un mese nessuno me la porta via, io vado lì e la spazzo via io, ma che discorsi sono? Ma non porto questa immondizia, cioè voglio capire un attimo, non... allora dico prima un attimo la mia. Io parlo dei gol Eminence, che è stata la prima zona in cui si è fatta la differenza da porta a porta. Noi qua abbiamo una differenziata pari al 70-80%, quindi immondizia da casa mia non ce ne sto. Mio padre, io che mio padre paghiamo 380 euro l'anno di immondizia, non vedo perché mi deve traspassare in mezzo alla strada, non esiste. Non no, ma fa, lei secondo me ha ragione, Parenzo lo diceva l'ascoltatore, per... credo sottolineare ogni tanto l'inerzia o comunque sì, l'indolenza di chi protesta si lamenta e non fa nulla. Bene, un altro ascoltatore, Giampiero da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io esco un attimino dalle vostre diatribe politiche, cioè colgo l'occasione di una voce. E di cosa vuole parlare, diciamo... signor Giampiero? Prego? Di cosa vuole parlare? Ma guardi, una riflessione più che altro che... spero porti ad un qualcosa di più giusto a livello sociale. Siamo tutti, diciamo, di fronte a sacrifici, rinvii a livello pensionistico, chi più ne ha più ne metta, praticamente rivalutazioni bloccate. Forse ci dimentichiamo che c'è un esercito di gente che preleva tutti i mesi in rosso da un conto corrente in rosso e che sono quei famosi baby pensionati che tutte le forze politiche in lo tempore hanno contribuito a costruire. Perché queste persone non vengono chiamate a dare il loro contributo in questo momento così difficile? Perché il mio corrente... Guardi, il problema è che in Italia è difficile intervenire sui diritti acquisiti. Quando si acquisisce un diritto è impossibile tornare indietro. Certo, si potrebbe intervenire sulle pensioni d'oro, sulle baby pensioni, poi comincia una marea di cause che non finisce più. Dunque, sui diritti acquisiti è impossibile intervenire. Allora, un contratto di lavoro come quello degli statali, io non sono uno statale, quindi mi sono anche poco simpatici, le devo dire. Viene bloccata la rivalutazione, non si va a toccare un diritto acquisito perché i contratti sono già firmati. Sì, ma sulla rivalutazione non è un diritto acquisito, la rivalutazione è un'altra cosa. La rivalutazione è una cosa su cui si può intervenire o non intervenire, ognuno di noi può dare un giudizio politico se è giusto intervenire o no e soprattutto da che cifra si può intervenire. Quello non è un diritto acquisito, la rivalutazione. La rivalutazione fa parte di accordi che allora, ci sono. Questi sono vitalizi, no? Belli e buoni, di gente che poi si è riversata sul mercato del lavoro probabilmente a fare un altro lavoro con il nero. Io direi che ci vuole il coraggio di cambiare, altrimenti l'Italia... Guardi, forse per me bisogna alzare l'età pensionabile da oggi, da ieri anzi. La questione delle donne la trovo incredibile. Cioè questo, il fatto di diluire l'aumento dell'età pensionabile delle donne fino al 2030 subito andava fatta, subito da oggi subito. Allora io le dico che il mio conto corrente previdenziale comporta già 41 anni di versamenti e non riesco ad andare in pensione. Non posso affrontare il suo caso singolo, abbia pazienza. La metto lì perché scusi, va bene, grazie. Francesco Pionati è con noi, buonasera. Allora Pionati, come va? Insomma, ho visto, non è un bel periodo per nessuno. Com'è che si chiama? Com'è che dovrebbe essere Gruppo Delta, Struttura Delta? Come si chiama? Sì, la Struttura Delta. La Struttura Delta della Rai. Lei sarebbe stato uno dei protagonisti di questa Struttura Delta. Sarebbe la falange berlusconiana all'interno. Infatti. Poi perché? Programmavamo attentati, ma non ci siamo riusciti. Senta, ma lei poi alla fine finì col candidarsi in realtà con l'UDC, non con Berlusconi. Esatto. Cercava l'udienza da Berlusconi, attraverso alcune telefonate che abbiamo ascoltato, di ottenere qualche cosa da Berlusconi. Guardi, la miglior difesa è l'attacco. Chi monta questo caso lo fa perché in Rai, se c'è una struttura sulla quale indagare, è la struttura collaterale alla sinistra che condiziona tre quarti della Rai. Il problema è che magari non intercettano le loro telefonate perché hanno delle linee dirette fisiche fra la sede dei DS e quelle della Rai, quindi magari non c'è possibilità di intercettare, ma ci sono testimonianze oggettive. Tipo? Ha assistito personalmente a qualche telefonata? No, ma guardi, tra chi e chi? Basta dire che ci sono direttori di testate Rai, capi redattori e conduttori. Chi? I nomi sono su internet. Faccio un esempio clamoroso. Diciamo, in condizioni oggi critiche, quindi non si può certo discuterne, ma ci sono colleghi della RAI che hanno presentato le manifestazioni pubbliche di Prodi e il lancio della candidatura di Prodi a Palazzo Chigi, così come la campagna elettorale di DS. Hanno fatto le convention questo è regolare per l'informazione. No, non è diverso. No. C'è un giornalista che deve... Beh, però un conto è lavorare per la RAI e favorire un'altra azienda o favorire... E chi l'ha favorito? Io non ho favorito nessuno, non so se sia il suo caso, ma dalle telefonate, dalle intercettazioni del caso HDC emergerebbe poi sa, il telefono. Vabbè, vediamo, questa telefonata tra lei e la Bergamini. Tra me e la Bergamini è un discorso che riguardava esclusivamente il rapporto tra giornalisti che non erano di sinistra in Rai. Io dicevo che eravamo. Ma doveva fare il giornalista? Che eravamo, venga il Rai a lavorare e veda se è così facile fare il giornalista se non sei di sinistra. No, beh, adesso lasciamo perdere. Era difficile nel 2005. Lei dice fare il giornalista se non eri di sinistra. E diciamo che ci sono state delle purazioni. Diciamo che la sinistra ci andava pesante, che la sinistra controllava. Ci mancherebbe altro. Epurazioni da incarichi operativi proprio per non disturbare i manovratori. Quando c'era il centrosinistra, insomma, non ce la siamo passata. Il problema è che il contrario. No, avviene. Il contrario mi pare di no. Se guardiamo quello che fa la Rai, che ha fatto la Rai negli ultimi due anni con Berlusconi, tutti i programmi di approfondimento, tranne quello di Vespa, che sostanzialmente è inutile per gli ascolti che fa, non mi pare ci sia stato. Come inutile? Programma inutile. Programma di Vespa è inutile. Da chiudere. No, da chiudere, ma insomma, tra gli ascolti di Vespa e quelli di Santoro e di Fazio, non più bravo storia. Santoro. Sicuramente è più efficace. Il suo giudizio televisivo poi interessantissimo, perché è un uomo di televisione. È un programma inutile Porta a Porta, ormai per la politica è un programma inutile. Io conosco un grande sondaggista che mi ha detto: è inutile che vai a Porta a Porta perché non serve a nulla dal punto di vista della comunicazione, della crescita di un movimento politico. Ma questo è interessante. Molto interessante. È una persona molto seria, si chiama Crespi, quindi è una persona di cioè Porta a Porta è morta, finito. Porta a Porta per chi voglia presentarsi, lanciarsi, come noi abbiamo fatto con il mio partito Alleanza di Centro, non è una struttura utile per fare questa operazione. Certo. Invece andare a fare un passaggio con Santoro, fare un passaggio con Ballarò è più efficace. Molto un'analisi interessante molto che condivido. Molto più efficace. Allora 800 24 00 24, lei dice la struttura detta non è mai esistita, cioè quello che mi riguarda in una maniera più assoluta. Però lei perché giornalista del TG1, notista politico del 2005 con ambizioni politiche, questo è legittimo naturalmente, cercava udienza, ma non no udienza, però cercava attraverso la signora Deborah Bergamini, poi lasciamo perdere il conflitto di interessi eccetera, questo è un altro discorso. Beh, ricordiamo che la signora Bergamini lavorava in Fininvest prima e poi è stata messa alla Rai di Berlusconi e poi è stata messa alla Rai al marketing. Secondo me quello è l'errore capitale, come dice e scrive Grasso sul Corriere della Sera. Quello che succede dopo è una conseguenza, sì. È una conseguenza. Vuol dire allora, che lavorava per la perché Fininvest? Lei prende il telefono e rincorre la signora Bergamini? No, io non ho mai ricorso la signora Bergamini. Mi pare che la telefonata sia venuta dalla signora Bergamini, non vorrei sbagliare. Anche lei chiamava la Bergamini, no, insomma. È una sola telefonata del 2005 della quale sono 4-5 telefonate ci sono. No, la mia no, era una. Poi ci a sono certo punto lei dice Mentana, Berlusconi, Mentana. Ci volevano 5 minuti a cacciarlo. E Mentana non la voleva, Berlusconi non l'ha fatto. Ho detto e ho spiegato che poiché Berlusconi aveva interrotto come editore il rapporto di fiducia con Mentana, poi la come capita sempre, come capita anche al Sole 24 Ore, se si rompe il rapporto di fiducia fra la Confindustria e il direttore, in una settimana il direttore viene messo dunque, fuori. I metodi così veloci che poi commentano, ma non veloci, non furono? Ma no, esatto, non furono veloci perché... Doveva essere utilizzata la RAI? No, non dicevo quello. Dicevo che Berlusconi aveva impiegato, nel caso di Mentana, dei tempi lunghi per fare un'operazione concreta che di fatto... Cioè, quando non è un fatto scandaloso, quando in un'azienda si rompe un rapporto di fiducia fra l'editore e il direttore, vedi che sta succedendo con Mardo, cioè, in Inghilterra. Lo doveva cacciare prima Mentana, cacciare. E lui ha fatto anche il direttore editoriale. Non si tratta di cacciare. Cioè, se l'editore e il direttore rompono un vincolo di fiducia, non ci può essere collaborazione, quando la struttura ovviamente è una struttura privata. Quindi... ho detto che in quel caso Berlusconi manifestava una certa, che poi mi pare anche in politica si sia vista, la cosa cioè, curiosa, un certo impaccio ad operare. La cosa curiosa a leggere con le intercettazioni è che lei, giornalista della RAI, di punta del TG1, sì, si confrontasse con la signora Bergamini sulla strategia da adottare per come dare le notizie. Questo è un po' il sottotesto di era quello che era una emerge. Dirigente di prima fascia della mia azienda e io mi confrontavo ed esprimevo dei giudizi personali che rivendico. Lì si tratta di giudizi personali che io ho mantenuto e mantengo. La differenza è che quella è stata una telefonata, credo l'unica che mi abbia riguardato, perché riunioni contro la RAI non ne ho mai fatte e non ne farei mai. Io ho sempre lavorato in RAI, sono entrato con una borsa di studio nell'83 e non farei mai nulla contro l'azienda che mi ha dato prestigio, successo e soldi. Se altri hanno fatto risponderanno, ma io ho detto in buona sostanza che poiché i giornalisti non allineati a sinistra erano pochissimi, bisognava organizzarli. Ma perché bisogna organizzare? Le notizie sono notizie. Ma che notizie sono notizie? In che senso? Nel senso che non è sempre perché così. Perché bisognava organizzare i giornalisti berlusconiani all'interno della RAI o comunque non perché di sinistra? Perché erano non berlusconiani, io ero dell'UDC, democristiano da sempre, giornalisti non schierati con la maggioranza di centrosinistra. E perché bisognava organizzarli? Perché per difendersi, io ho fatto un sindacato che si chiamava Libera Stampa, così così come c'è l'Usigrai, perché c'è uno sbilanciamento di tutti i tipi in Rai, in base al quale se tu eri schierato a sinistra avevi una serie di tutele, di garanzie, di carriera, di operatività e di lavoro sulle quali potevi contare, altrimenti eri un birillo che poteva essere colpito in qualunque momento. Io mi sono difeso, e questo lo rivendico, solamente in base alla mia professionalità. Quando venne un direttore che si chiamava Demetrio Volcic, io fui messo per un mese in ferie forzate, proprio perché ero ritenuto non funzionale a quel tipo di telegiornale. Furono messe delle persone a sostituirmi. Dopodiché quelle persone... Ma nella RAI guidata dai partiti questo succede? Demetrio Volcic passava come un grande giornalista, fece un'operazione da 4 soldi di ferie forzate solo nei miei confronti, perché io non ero funzionale al disegno della sinistra. Dopodiché fui richiamato di gran carriera, dopo aver parlato con Celli, perché ci furono dei cali d'ascolto violenti e delle proteste perché i miei servizi erano equilibrati e fatti bene e gli altri no. Quindi c'è un problema anche di professionalità che vabbè. Tutela. No, no, vabbè, un corno. No, no, cioè, no. Va male. Quindi il problema... Se si deve entrare nel merito delle sue vicende alla RAI, io le faccio una testimonianza... No, c'è testimonianza... Non dovrebbe funzionare così. Esattamente. Diciamo, e allora di fronte a questo... Si è stupito del fatto che quelle delle parole siano state rese note, siano state diffuse? Ma sì, perché non c'è nulla di rilevante. Sono stupidaggini totali, assolute. È la linea, tra l'altro seguita solo da un giornale, Repubblica, ripeto, che utilizza la strategia della migliore difesa e l'attacco. Cioè, ormai la Repubblica vuole dimostrare, è arrivato a P4, vuole dimostrare che in Italia Berlusconi ha infiltrato tutto. Allora la P1, la P2, mo' la P3, la P4, che sono delle buffonate, delle cavolate, vedrete in che cosa finiranno. E la struttura Delta pure una buffonata. La struttura Delta mi fa ridere, perché io quando ero ragazzo vedevo Delta Force in televisione con Chuck Norris, e mi ricordo quello che mi faceva molto ridere, come è una totale e assurda buffonata. Ripeto, io ho già chiarito con l'ordine, si ripescano. Con l'ordine cosa ha chiarito? Dei giornalisti, abbiamo parlato. Ah, perché l'hanno chiamata per dire, oh, ma che cosa organizzava? No, non ti preoccupare che non c'è nessuna... Non hanno avuto diamo questi doni, se no ero io che li portavo in tribunale. Tranquillo, io non sono uno leggero, insomma, tranquillo. Il Padre Eterno allora un po' sudetto, si tolse uno stivale e fece il nostro stato, ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il padrone al contadino. Eccoci, 20:17, questa è la Zanzara, caro Parenzo, 800 24 00 24, con Francesco Pionati. Molto in forma, lotta come un leone. Cari di centro, ragazzi. lotta come un leone. Ma la faccia un po' corrugata. Stanco. Un po'... Stanco, perché siamo in aula da ieri mattina a votare emendamenti a scrutinio segreto sul fine vita. Però la faccia anche un po'... Biologico. Come dire, no? dispiaciuta, provata. No, delusa di uno che ha una casa al mare e non è riuscito ad andarci una volta dall'inizio dell'anno. Questa è la mia faccia. Senta, ma un ministro che dà un cretino all'altro, ma non è tutto finito. Un ministro che dà un cretino all'altro ministro, ma sicuramente è una situazione. Crosetto che dice: no, il cretino è Tremonti. È una situazione da un po' kafkiana. Sicuramente le condizioni sono. Io vengo da una scuola di giornalismo di antica tradizione. Ho seguito la Prima Repubblica. Ci sono tutte le condizioni per una crisi di governo da tempo. Però questo che noi stiamo vivendo è solamente l'epilogo di una situazione che è nata dal distacco, lo ricordo, di Fini dalla maggioranza. Cioè il vulnus, la rottura, la frattura è avvenuta allora, e queste sono tutte conseguenze marginali di quell'evento. C'è una fibrillazione che non si riesce a dominare. Io personalmente anche come... Cioè, adesso il gruppo dei responsabili com'è che si chiama? Si chiama Popolo e Territorio. Ecco. PT. Come PT, Poste come, e Telecomunicazioni. Sì, perché noi recapiteremo a Berlusconi delle lettere, diremo c'è posta per te, con delle richieste precise in Popolo termini, e Territorio. In termini di programma. Sì, ah, così, cioè la cosa è Popolo e Territorio, cioè PT con... E voi mandate... Silvio, c'è posta per te. Ma non è una cosa seria. No, è serissima. Non è una cosa seria. Guarda, chiamate la pasta al sugo. Voi siete ragazzi molto, molto intelligenti e molto svegli. Noi abbiamo anche cambiato il capogruppo, che adesso è Silvano Moffa. Come no? Oh, allora, io sono un grande esperto. Cruciani è uno dei massimi esperti. È un Moffiano. No, responsabile in generale. Moffiano. Cruciani, Moffiano. Al massimo molto bello questo. Scilipotiano, ma Moffiano. No, anche un po' Moffiano. Ma lui era un po' invidioso di Scilipoti, conferenza stampa con Berlusconi. No, contentissimo per lui, fa benissimo. Missioni all'estero. un grande, Scilipoti è un grande, ce lo troveremo, che tra un po' che diranno: ma chi è quello vicino a Scilipoti, quando c'è lui e Berlusconi insieme? Ah, così ti dice, con così Berlusconi dirà, che dice, chi è quello? La gente Berlusconi, che li vede insieme diranno, ma chi è quello vicino a Scilipoti? Oppure chi è quello Mino Bianco vicino a Scilipoti quando andrà a trovare il Papa? Così fa grande marketing di se stesso, comunque. È un grande, sì. Non so di poi che prodotti potrà vendere, ma sicuramente è un abilissimo comunicatore. Sì. E volevo dire che con Moffa, più se, di Vespa, con Moffa, c'è meglio Moffa di Sardelli? Lei è moffiano, insomma, non è un problema di perché Sardelli ha fatto un lavoro straordinario, perché quando siamo nati siamo stati sottoposti a grande scrittore, poeta, chansonnier, tutto. Perché lei dice, ma insomma, non c'è paragone, dice. No, è stato bravissimo Sardelli a tamponare l'emergenza. Quando noi abbiamo creato il gruppo eravamo, diciamo, dileggiati da tutte le parti. Adesso facciamo un salto di qualità. Io dico, per essere sintetico, che noi da responsabili siamo diventati esigenti, cioè abbiamo tamponato. Ecco, attenzione, attenzione. Responsabili siete diventati esigenti. L'ha detto, cioè, l'ha detto stamattina a cosa? Però Omnibus, dica una cosa nuova. È di giornata, è fresca di giornata. Almeno fatela durare. Evolva, dica, da esigenti siamo diventati intransigenti. Dica, no, questo può succedere. Questo può succedere. Oh, allora, dica la cosa. Ad oggi, oggi lei stamattina a Omnibus ha detto, guarda, ce l'ho qua. Bravo. Da responsabili siamo diventati esigenti. Vogliamo il salto di qualità dal governo. Ma lo stiamo dicendo. Ha ragione Galan in intervista alla stampa. Esatto. Su Tremonti. Dunque, per lei Tremonti. No, Tremonti io l'ho è come noi, posso fare un discorso proprio brevissimo. Sì. Tremonti è nella come, stessa. Come voi? È responsabile. No, nella stessa condizione nostra, cioè. Fino a un certo punto, quando il 14 di dicembre hanno cercato di uccidere Berlusconi, bisognava fare di tutto nell'interesse del paese per non far avvenire il regicidio. Giusto. Sì. E noi ci siamo riusciti. Adesso Tremonti, noi, Berlusconi, la maggioranza, o aprono un'altra fase di salto di qualità, oppure finiremo come oggi, con gli insulti, il cretino, il controcretino, una manovra economica che fa Tremonti e tutti gli danno addosso. Cioè, ma chi è più cretino, Tremonti o Brunetta, secondo lei? Cioè, chi è più capace? Cioè? Ma perché là sono due ottimi ministri. Però non si sopportano, diciamo la verità. Ma non lo so. Ma lei sta dalla parte di chi? Perché hanno due visioni opposte, dai, è evidente. Cioè, tra Tremonti e Galan, chi preferisce? Galan. Galan, tutta sì, la perché una persona molto più sincera, a quel sapone, a me piace, Galan piace molto. Galan piace molto, ma il problema è questo: io sono sempre dalla parte di chi non sbaglia. Dire cretina a un altro ministro è un errore, e quindi non può essere la posizione di Tremonti non può essere difesa. Brunetta dice che è un'intercettazione illegale, ma di che parliamo? Intercettazione, che vuol dire? Lui dice una sorta di. Parla me di intercettazioni, resta appunto, il fatto che ha detto cretino e basta. Quindi, secondo me, il contenuto è questo. Allora, o facciamo tutti un salto di qualità, o la partita è chiusa. Perché io lo sto dicendo da dopo le regionali, che bisognava votare, quindi sono al di sopra di ogni sospetto. Perché credo che come analista politico sono uno abbastanza. È il numero uno. Insomma, sono bravo, capisco un po' le cose. La fase dei responsabili, del Tremonti che fa la manovra per salvare i conti pubblici. Basta, della... è finita. O ci diamo una prospettiva e recuperiamo in quell'anno che abbiamo davanti. Oppure... quello che abbiamo... tutti a casa. Oppure sì, questo è un teatrino che non. Ogni giorno sarà uno stillicidio di insulti, di stop and go, di cose che una maggioranza. L'analisi lucida, devo dire, l'analisi lucida. E questo, allora, in questo editoriale che io condivido. Noi facciamo la nostra parte, abbiamo cambiato capogruppo, abbiamo messo un uomo che. Adesso non è che cambiare da Moffa no, il paese. Popolo! No, il paese. Popolo, si interroga sul cambiamento da Sardelli a Moffa. È stato presidente della provincia di Roma per tanti anni. Vabbè, è presidente di una commissione. Ma che c'ha contro Sardelli? Che ma non fatto? C'ho nulla. Ma, come no? Ma, non, ma ci mancherebbe altro. Sardelli, lo dico pubblicamente, è un grande personaggio e ci ha aiutato nel momento più difficile in cui fare il capogruppo dei responsabili significava prendersi scudi da tutte le parti. Ma adesso dobbiamo voltare le pagine. Finita, non c'è più, non è più in ma agenda, non me ne frega nulla. Facciano quello che credono. Io penso. Ma in agenda ancora? Berlusconi lo sa. Non lo so. L'agenda non la faccio io. L'agenda non è che finisce come Versace, dimenticato da... come Versace è troppo forte, perché gli volevo dire come battuta, l'ho visto uscendo che nella prima repubblica era, noi lo definivamo scherzando ovviamente, certo, lo stilista preferito dei socialisti, e dicevamo Versace, che era il periodo delle tangenti. Versace era in sala stampa, sì. Battuta carina, del palazzo, si faceva palazzo. Non ci abbiamo registrata la barzelletta di Buonanno di ieri sera, che ha detto davanti a Berlusconi dia Milano di recuperarla, ce l'abbiamo. Buonanno, barzelletta a Berlusconi, certo, sul manager, sul manager preferito Berlusconi. Adesso la recuperiamo. Io voglio capire una cosa, scusi, ma perché lei diceva alla Bergamini, lei era ansioso di sapere se Berlusconi era ben disposto nei suoi confronti? Ma non lo so, onestamente, guarda, la voce è del 2005. Perché nel 2005? No, infatti, le cose del 2005 sono anche 7 anni fa. Perché? Perché vedi un po' se è ben disposto nei miei confronti. Beh, non lo so, probabilmente perché c'erano, non lo so, movimenti oppure perché c'era... era presidente del consiglio, qualche influenza sulla RAI. Cioè, no, sicuro influenza ce l'aveva. No, se... questa pantomima, sciogliamola una volta per tutte. Berlusconi, le mani nella RAI ce le mette. Ce le mettono tutti. E dunque anche quindi Berlusconi. Anche Berlusconi. Certo. È inutile che Berlusconi continui a dire no, io non ho spostato neanche una pianta alla RAI, no, perché non è vero. No. Berlusconi decide un sacco di cose alla RAI, Berlusconi, chi ce l'ha messo là? Berlusconi decide come tutti i presidenti del consiglio, non c'è alcun dubbio. C'è un problema però diverso, che è un problema più sottile. C'è Minzolini, chi ce l'ha messo? È Berlusconi. Personalmente Berlusconi. Beh, insomma, sono scelte che fanno loro, ma comunque sono... C'è una scelta che fa Berlusconi in persona. Fanno i presidenti del consiglio, è inutile che ci siamo prendendo in giro. Attraverso... ma non è Berlusconi, il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, chi lo nomina? C'è un la potere... politica, c'è la maggioranza che governa. Il direttore di giuro lo nomina il presidente del consiglio. Voglio dire, Rizzo Nervo era il portavoce o capo ufficio stampa di Romano Prodi. E allora basta, non ci stiamo a pigliare in giro. Ma il discrimine o capisci o non capisci di televisione? Minzolini capisce o no? Diciamo la verità. Sì, secondo me Minzolini capisce di televisione. Capisce di televisione. Capisce i TG? Sì, secondo me sì. Sì, fa un buon telegiornale. Ma il telegiornale io onestamente non lo vedo tanto. Come tanto non lo vede? No, il suo telegiornale. È il mio telegiornale. Non è ancora dipendente. So che ha perso... è ancora dipendente. Certo, in aspettativa parlamentare. Da quanto tempo ormai? Da 6 anni quasi? No, cinque dal anni, 2006. 2006, 5 anni. Perché tu non si dimette mai dalla RAI? Eh no, non si dimette da nessuna parte, c'è una legge che di diritto civile, non è no, che tu certo, se fai, ho capito, se certo. fai l'operaio Fiat e vai a fare il parlamentare, mica te licenze, no, l'operaio Fiat. Ma poi torna a fare il cronista parlamentare. È difficile dimettersi, no, diciamo. No, quello assolutamente no, mica sono un magistrato io. Che, e che vorrebbe fare? Se tu corrispondente d'Alessio. Ah, quello che voleva fare già all'epoca. Certo. Londra. Nelle telefonate, eccetera. Certo, Londra, certo. Parigi, New York. Ma, no, ma pure Berlino. Berlino, io Berlino le piacerebbe. È la capitale d'Europa. Ha già preso la casa? No, costano troppo. Cioè, se lei dovesse tornare la RAI dopo la politica corrispondente alla assolutamente questo ma è la trafila normale. Badaloni, Badaloni presidente della Capranica. Regione presidente della regione no, non è mai stato deputato no, Badaloni era presidente della regione Lazio certo. Capranica non è mai stato Capranica deputato, no, Capranica deputato. Non è, mai stato è stato direttore però della TG Paese Sera vabbè però c'è un giornale sì giornale vicino alla sinistra una cooperativa di sinistra però un giornale è un gran giornalista Capranica molto bravo il miglior e qui da Buckingham corrispondente estero. Sì, sì, sì, assolutamente. È chiaro che non sono mica, ripeto, un magistrato che colpisce gli avversari, poi va in politica e poi torna a fare il magistrato per colpire magari i parenti degli avversari. Berlino, inviato a Berlino. Molto. Corrispondente. Capitale d'Europa, lì si gioca tutto il destino bellissimo. Europeo lì. Capito? Molto meglio di New York. Pionati, corrispondente da Berlino. Sentiamo i titoli della 7, ti piace la 7? Molto. Mentana? Molto. Ci andrebbe a lavorare alla 7? Magari abbandona la RAI per la spionati due punti sono pronto no, a abbandonare la RAI perché per la sfida io ho fatto Alleanza di Centro che è un partito che si sta Alleanza di Centro tra mille difficoltà è un partito che si sta tenendo in piedi e si sta anche affermando discretamente a me piacciono le sfide come a Mentana cioè l'idea di avere un telegiornale che parte basso e deve recuperare è molto meglio che avere una grande struttura nella quale secondo me puoi solo perdere la parla del TG1 infatti lei forse per voglio dire, se potesse andrebbe di corsa alla 7 a lavorare. Sì, sì. Dopo la, faccio dopo un appello a Mentana. Enrichetto, sono qui. Sono qui a tua disposizione. Telefonami, però attenzione che non ci siano intercettazioni. Portami al TG della 7. Portami alla 7 dopo la politica. Lo dica, lo dica. Ma ci vado spesso però la mattina. I corrispondenti lì non ci sono i corrispondenti a Berlino. Ma bisogna stare attenti perché il problema è che se noi vogliamo fare informazione, l'Italia è un paese provinciale. Il vice direttore Mentana lo farebbe? Subito. Ma è un grande. Faccio un appello. Enrico, sono qui. Prendi. Lo sa che sono qui. La barzelletta di buon anno. La settimana scorsa ho trovato il Premier in Parlamento, eravamo un po' di deputati in una pausa. Allora eravamo lì che si parlava, a un certo punto, per scherzare, ovviamente faccio... lo sai che io so qual è il tuo manager preferito in Italia? Sì. E lui, chi? Passera. Ha riso solo lui poi. Va bene. Traffico, che traffico? Borsa delle 20:30, torniamo tra un attimo 800 24 00 24, qualche ascoltatore Antonio dalla provincia di Salerno, Umberto da Genova e altri. Alleanza di Centro per l'Italia. Grazie, grazie. Per quelli che hanno voglia di cambiare. Alleanza di Centro per la storia. Per questa nostra patria da salvare, noi vogliamo difendere l'onore di chi non ha più santità Allora, questa tessera della struttura Delta ce la fa vedere? Tiri fuori il portafoglio, Pionati. Tiri fuori il portafoglio, la tessera della struttura vedere. Delta. Eccola qui. Che ha nel portafoglio? Peccato che non siamo in televisione, se no me la facevo vedere sul serio. Dentro il portafoglio di Pionati, qui vi qua, porta la zanzara. Ecco qui. Carta d'oro. Eccola qua. Carta del supermercato. Carta del supermercato. Ecco, adesso, questa è l'Europa Berlin. Quella la tessera Delta. Bricolage, fai eccola qui, la tessera della struttura Delta. Numero 3, numero 4, sì. Tramavate a favore anche di Mediaset. Attentate. No, proprio guarda. A favore di Mediaset e non solo, no? E non solo. Lei io chiedeva... mai, solo per la Rai ho lavorato. Solo per la Rai. Fatti capo di una squadra che si ripropone al presidente, lei diceva la Bergamini. Certo. Per vincere deve mettere in posizione tutti i pezzi di batteria. Mi faccio un elenco di... Sentire queste cose, io le considero, come dire, normali perché la politica occupa la Rai da tanti anni. Però sentirle fa un certo effetto, devo dire la verità. Ma questi discorsi che si fanno in tutti i giornali, i direttori si chiamano, si dicono le cose, si suggeriscono le pagine. Mi pare che sia una cosa del tutto banale. Cioè, il problema è questo, vorrei fare un esame comparativo... di 4-5 intercettazioni di vari direttori con vari politici, sarebbe una cosa assolutamente uguale in tutte le direzioni. Vorrei sapere il direttore del TG3 tutti i giorni, quando veniva consultato dal capo ufficio stampa di Fassino, di cosa parlava, se non di impostare il giornale, di fare una certa intervista piuttosto che un'altra. Quindi il fatto che vengono pubblicate solo delle cose... per esempio, oggi per fare la scaletta del telegiornale risponde a qualcuno secondo lei? Ma io stimo moltissimo il direttore del TG3, quindi non so come si comporti, ma il fatto che si chiami Berlinguer già mi fa pensare che forse un po' di orientamento politico c'è. L'orientamento politico certamente non lo nascondo, questo è sicuro, però per fare il giornale, fare il giornale si consulta con qualcuno secondo lei? Beh, con i suoi capi redattori senza quello, quello con la politica si consulta, diciamo che in politica avrà qualcuno che ascolta, no? Non penso che come dire nella dinamica interna al PD tra i veltroniani e i dalemiani non abbia una posizione, insomma credo che ce l'abbia, e poi è una gran professionista e saprà mettere tutto, peraltro come mettevo io, perché io ho fatto il giornalista per parlamentare dall'84 al 2006, non ho avuto mai problemi di rapporti né con la sinistra, ho avuto in tutta la mia carriera 2-3 interrogazioni parlamentari, quindi credo che la gente fosse molto... E tipo sono stato richiamato dopo essere stato messo in ferie forzate a furor di popolo, perché senza i miei pezzi non si capiva nulla. Quindi... addirittura. Si capiva il bastone di Pionati. Il bastone di Pionati. No, io mi ricordo, gente telefonava. Tutti hanno contestato. Diceva, dateci il bastone di Pionati. Tutti hanno contestato e tutti hanno poi cercato di imitare senza successo. Mitico bastone di Pionati. Ho voglia di fare la guerra. Perché lei diceva ho voglia di fare la guerra? Non lo so, devo contestualizzare così su due piedi. L'importante è che il presidente ci carichi, ho voglia di fare la guerra, un paracadute ce lo troverà. Perché è c'è una terminologia cosa? Militare. Cioè, mio padre, buonanima, era paracadutista volontario a 18 anni. Si vede che ce l'ho nel sangue, questa cosa di combattimento. Le do a combattere per, diciamo, per una parte. Questo sembra combattere per una parte politica. Non combattere per una parte politica, per se stessi, per sopravvivere. Difendere la pelle. Sì. Difendere la pelle. Ma chi la voleva far fuori? Chi voleva la sua pelle? Io le ho fatte, le ho detto e le ripeto. Il direttore Volci. Scusi, è arrivato al TG1. Ma Volci c'era Clemente, Jamie, Moon. Nel 2005 c'era Mimun. Voi che cosa temevate nel 2005? Facevo un ragionamento di carattere complessivo, onestamente. Qual era il ragionamento? Devo ricordare con esattezza quello che ho detto. Fatemi corrispondere. Ma corrispondere significa levarsi dal gioco, quindi era in contraddizione. Poi Berlusconi dice: no, mi serve Francesco. È questa la cosa, mi serve Francesco. Un presidente del consiglio che dice mi serve quel giornalista, e questo è il punto. Ma mi serve perché probabilmente era uno. Guarda, non è che Kempente voglia enfatizzare il mio ruolo, ma era uno che lo rispettava. Perché quando il centro-sinistra era al potere. Ma questo lo fanno tutti, dice lei, no? Tutti lo fanno. Certo, l'allora presidente della Rai, che era l'ottimo professor, che adesso è deputato dei DS, guarda caso. Zaccaria. Teorizzò i tre. Insomma, detti tre bidoni, oppure la politica dei tre terzi, cioè un terzo andava dato alla maggioranza, un terzo andava dato all'opposizione e un terzo andava dato alla presidenza del consiglio, ed era giusto perché l'esecutivo è diverso dalla maggioranza. Certo, quando invece poi è andato a vincere le elezioni il centrodestra, bisognava fare metà e metà. Sì. Allora probabilmente io, che invece mi rifacevo a quello schema del un terzo, sia quando c'era Prodi a Palazzo Chigi, sia quando c'era Berlusconi. Questo è lo schema Pionati, ma del bastone Pionati. No, lo schema Zaccaria. Io manifestavo una forma di rispetto che probabilmente era corretta e piaceva al Presidente del Consiglio, ma io lo rispettavo sia quando c'era secondo Prodi... Berlusconi anche... non sapeva nulla di questa cosa. No, penso che Berlusconi lo sapeva. Penso che io ero corretto anche quando c'era D'Alema. anche quando, cioè, io sono sempre stato eletto, nel senso che per me l'istituzione governo è una cosa sacra a prescindere da chi occupa in quel momento la posizione. Donati, invece, secondo altri, se la occupano gli amici quella posizione va data enfasi, se la occupano i nemici va cancellata. Questa è la cosa che non appartiene alla mia cultura, ma a quella marxista. Senta una cosa, ma Berlusconi quanto è ossessionato dalla RAI? Mi dica la verità, è molto ossessionato dalla RAI. Sì, è uno dei, però ne ha avuto di schiaffi, non è che... Però è ossessionato, ha questa ossessione. È un'ossessione come quella della magistratura, che ha una forma forte di giustificazione, perché insomma sia la RAI che la magistratura, insomma, sono 15 anni che cercano di sgambettarlo. Ma oggi da che deve essere ossessionato? Il TG1 ma lo, dai, oggi, lo a oggi diciamo lo che ha solamente, solo ed esclusivamente... Il TG1. Il TG1, insomma, ha una benevola attenzione del TG1, no? Dai, benevola attenzione del TG1, assolutamente. Assolutamente sì, non vedo altra. Per il resto è tutto contro. Cioè, ho tutto contro nella migliore. Tutto contro, adesso il TG2 non è che sia contro. Vabbè, insomma, TG2 insomma, ha una neutralità così, un pochino di facciata. E poi sicuramente molto, insomma, sicuramente equidistante e serio. Il TG3 però è ossessionato, questa cosa di Santoro è ossessionata. Ma sì, perché i programmi di approfondimento sono stati, secondo me, a senso unico. Io tra l'altro mi domando cosa succederà quando non ci sarà più Berlusconi. Questi poveracci si dovranno riprogrammare da capo, dovranno cercare un nuovo nemico, perché la funzione questi chi scusi questi che fino ad oggi hanno fatto i programmi sostanzialmente, cioè, tutti in maniera, cioè, facciamo un po' di nomi di questi Santoro qui mi pare che dovrà trovare un altro nemico. Poi, magari lo troverà a sinistra come ha fatto Fazio, chi? Ballarò, Fazio, sì, dovranno, quindi costruire... Anche Floris dovrà trovare un nuovo nemico, questo lei dice. Floris è un grande professionista, grande, no? Professionista, ma i grandi professionisti, come dire, hanno anche loro, come Floris, secondo me un orientamento pregiudiziale. Guarda, io faccio il caso di Alleanza di Centro, tanto per essere caso clamoroso, no, è un caso clamoroso, è un caso serissimo. Cioè, noi abbiamo avuto alle regionali del 2010 117.000 voti in tre regioni, e abbiamo preso, questi sono dati del Ministero degli Interni, allora... non è che sono i miei, abbiamo avuto 7.000 voti a livello nazionale più del partito. Dunque? Di Rutelli, giusto? E siete snobbati, diciamo. Mai stati invitati. Vabbè, ho capito, però questo, di questo si lamentano tutti. No, guardi, io, Donati, no, dai, ma radicali, io, no, no, attenzione. Alleanza di Centro. Ma non io so, ti porto i dati. Cioè, sì, i dati, ho capito, però non è che allora, sia, qual è l'obiettività? Ma non è che sia un obbligo invitare le persone alle trasmissioni. No, tu devi dire che nell'arco di una stagione una forza politica la devi ospitare, soprattutto se ospiti altri che hanno avuto meno voti. Dai, e queste io da giornalista non lo farei chi mai. È che invita, non lo farei mai, non l'ho mai fatto. Non ho mai trascurato i liberali perché avevano il 2%. Li mettevo esattamente per quello che meritavano di essere citati, ma li mettevo, non li mettevo tutti i giorni come l'ADC o come il PC, ma li mettevo. Invece questi fanno della violazione completa della obiettività e della completezza dell'informazione la loro bandiera. È così, tanto gli italiani lo sanno. Sì, però, gli italiani lo sanno, la percezione che la RAI ha lavorato contro Berlusconi è una cosa nota, la percezione che la magistratura ha lavorato contro Berlusconi è una cosa nota. La debolezza oggi di Berlusconi, e che dovrebbe fare il RAI ancora di più, dipende da altro, non dipende dal fatto. Capito, fuori le unghie ancora di più. No, fuori le unghie. Alla RAI che dovrebbe fare per evitare Berlusconi? Ma che deve fare? Nulla, tanto non c'è nulla da fare, perché quando tu occupi c'è un problema molto. Santoro adesso probabilmente ritornerà, alla RAI. Ma va benissimo, tanto sono tutte pantomime, piglierà altri milioni di euro che pagano i contribuenti, va bene così. Ma Berlusconi dovrebbe andare a ospite da Santoro. Noi tagliamo i costi della politica e poi diamo a questi conduttori quello che non guadagnerà mai un operaio in 10 vite. Quindi questa poi lei è già preparato al fatto che Santoro farà un altro accordo. Ma no? Sì, ma va benissimo, è una pantomima che dura. C'è successo una volta che se n'è andato, poi è tornato per un euro e poi sono diventati non so quanti. Cioè tornerà la RAI secondo lei? Ma credo di sì, ma dove gli ascolti che vuoi fare, che gli consente la RAI? Contratto triennale oggi per Fabio Fazio, dall'autunno 2012 tornerà anche Saviano. Sì, sì. Mi dispiace che tra un po', se Berlusconi va a casa, non so con chi se la piglieranno. Cioè, mi immagino, ma che programma contro dei magistris a Napoli di Saviano, sarà una bella... Ma perché il giornalismo non dovrebbe avere dei nemici, dovrebbe semplicemente raccontare un'informazione, lo devi potere, dire, no? A loro, lo devi dire a loro, non Cristiano a me. Io dalla provincia io di Varese. Non ho mai attaccato nessuno. Cristiano dalla provincia di Varese. È una forma di rispetto che non ho. Dica. Sì, pronto? Dica. Sì, buonasera. Prima mi sono divertito molto sentendo la vostra registrazione dei Scilipoti. Ero in macchina, allora ho fatto una ricerca veloce su Google e la medaglia Tiradentes esiste veramente. No, ma certo, è proprio un alto onorificenza brasiliana. Un'alta onorificenza brasiliana? È un'alta onorificenza brasiliana. Poi bisogna vedere se l'ha andata lui, però esiste. Questo è senza dubbio. Ma nessuno metteva in dubbio questo. Diciamo che nel contesto di oggi evocare la medaglia Tiradentes è sembrato un po' strano, però Scilipoti lo ricordava. per evidenziare che i giornalisti se la prendono con lui, lui è stato sbeffeggiato, criminalizzato, eccetera, senza conoscere la persona. E lui ha raccontato: io ho fatto questo, questo, ho scritto 20 libri, ho fatto 22.000 visite, ti sbagli, 22.000 visite nelle favelas insieme ai suoi collaboratori. Quante visite ha fatto? 22.000. Tu prendevi appunti durante i come si fa? No, ma come si no? Ce l'ho, c'è dappertutto. No, no, come tu prendevi appunti, eravamo lì insieme. Come io si fa te? A fare 22.000 visite? Quei collaboratori, però. È difficile 22.000 visite. Non quanti non anni avrà Scilipoli? Non ci siamo anni soffermati. 50, non quanti anni? 40? Onestamente, no. 45? 40 no, penso. 22.000 visite, è complicato 22.000 visite. Si era da chiedere. Scusi, come ho fatto a fare 22.000 visite? 22.000 visite, vabbè. Traffico, torniamo tra un attimo. Il Padre Eterno allora un po' sudetto, si tolse uno stivale e fece il nostro stato, ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il padrone al contadino, oh, oh, vieni avanti cretino, rispondelo per... volano parole grosse al governo, caro Pionati, volano paroloni, cretino... E con Crosetto che dice che il cretino in realtà è Tremonti, eccetera, eccetera. Perché eccetera. Non prende questa canzone come nuovo inno del suo movimento? Tutti la sigla, la sigla di Vieni avanti, cretino, meravigliosa. Vabbè, c'è La prevalenza del cretino, un famoso libro di Fruttarello Centino. Certo, ah, grande, certo, grande la coppia. La prevalenza certo. del cretino, la prevalenza del cretino, Mino da Frosinone. Mino, chi è Mino? Buonasera, un ascoltatore. Ah, chiedo scusa. Buonasera, eccomi qua. Certo. Buonasera a voi, buonasera agli ospiti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene. Eccoci. Scusa, dove avete detto buonasera, però parli, caro Pino. Sì, sì. No, volevo intervenire su quest'ultima discussione relativamente alle battute, a quello che diceva l'onorevole Pionati, alle battute naturalmente sull'onorevole Scilipoti. Che conosco personalmente. Ecco, sono uno dei... Ma veramente battute non ne ha fatte su Scilipoti e Pionati. Comunque, vabbè, Mino, lei conosce personalmente Scilipoti. No, vabbè, c'era, non è una cosa strana. Si mischiava con gli interventi di Parenzo, eccetera, a casa e tutte queste cose così, tranquillamente. Su Scilipoti non ha detto a casa, veramente. No, no, io non ho mai detto a casa Scilipoti, mai. Ma Mino, lei già ha sbagliato una volta. Veramente lei beve acqua o alcolici quando telefona in genere? No, no, chiedo quando... alcolici, assolutamente. Ah, ecco, no, chiedevo. Ne fumo nemmeno. Vabbè, no, il fumo che quindi la lucidità dovrebbe esserci, no? Vabbè, sì, sì, cioè, tranquillamente. C'è, però, ho capito, ma concluda. C'è, però, non si capisce niente. Come? Sì, brevemente, questo taglio derisorio, no, che voi solitamente date alla trasmissione ed è quello che fa consenso tra gli ascoltatori, allora? Non ci vuole criminalizzare per questo? Ci vuole criminalizzare per questo? Non ho capito, vada al solito, Mino, non è che possiamo... Niente, cioè, siamo... cioè, qui ci vuole radio. Vita, ci vuole vita, vita, velocità, non lentezza, sì, no, ci vuole no, vita, no. Ci vuole vita, ci vuole velocità, però questa vita e questa velocità non deve essere unidirezionata, come stava dicendo l'onorevole Pionati, insomma, no, cioè, quello che proviene da una certa è visto con occhio benevole, eccetera, tutto l'altro è il regime, la cosa, eccetera, tant'è vero che questo regime, naturalmente, era potente, che ha determinato i due schiaffi, quello prima delle amministrative e il secondo naturalmente quello del referendum. È un regime qui in Italia che studio, è veramente spaventoso. No, guardi Mino, lei su questo ha perfettamente ragione, ma in questo studio non c'è nessuno per fortuna che è convinto che ci sia un regime, nemmeno Parenzo, che magari la pensa diversamente da me e diversamente da Pionati, Non l'ho mai sostenuto. Non c'è nessuno che pensa non che ci sia un regime, nella maniera più regime, assoluta. Queste nessuno. Considerazioni le lasciamo, come dire, ad altri, ma nessuno ha mai pensato c'è altissima che libertà, grande informazione, regime nella maniera un po' meno, più assoluta, nella maniera più assoluta. Allora, dunque, Pionati, oggi lei ha anche detto rischio cortocircuito nel governo, rivendico la telefonata con la Bergamini, cioè rifarebbe le stesse cose. Ma sì, ne avrò fatte anche di peggiori nel corso degli anni, magari non intercettate. Non c'è proprio nulla di... Ripeto, per avere un'idea bisognerebbe fare una comparazione fra telefonate dello stesso tenore. Se ne guarda solo una, mi pare che siamo messi comunque fuori strada. Ma chi però... chi è all'interno del centro-sinistra che fa più telefonate, più simili telefonate, alle sue? Secondo lei. Ma simile alle sue, tutti. Penso che l'ufficio. Sì, allora hanno tra l'altro nella cultura marxista c'è un rapporto proprio gerarchico diretto fra partiti e giornalisti di riferimento. Credo che, insomma, il fatto che tante testate... Cioè lei ad esempio sosterrebbe che i giornalisti del TG3 sono la cinghia di trasmissione col PD? Tranquillamente. Sì. Ah, sì. Cioè proprio la cinghia di trasmissione. Ma sì, cinghia nel senso che non ne fanno per nemmeno... usare un'immagine, no, del ma non ne fanno PG. Nemmeno mistero e ci sta nel gioco. Beh, perché Rai, la terza rete sa, cioè, come è nata. Per me sono giornalisti. Ricorda, sì, ma, sì, la, sì. Ma non dica, queste sono ipocrisie che io non condivido. La terza rete nacque su una scelta strategica giustissima di un grande uomo direttore generale come Agnes Biagio, per dare ai comunisti che avevano in Italia una grandissima fetta di elettorato una giusta possibilità, sì, però, di questo. Ma è diverso dire che i giornalisti del TG3 sono il microfono, ricorda, del PD, ma dai, ma è diverso. Il direttore storico del TG3 si ricorda Sandro Curzi, con... mio carissimo amico, allora, è il primo direttore, allora, che mi ha fatto scrivere sul suo giornale. Allora, è un grande giornalista. Io ho un ricordo affettuosissimo di Sandro Curzi. È stato il mio primo direttore. Il problema che invece rivendico io è che dovrebbe essere, che diciamo, insomma, oggetto di sì, grandi beh, complimenti, più, che bisogna uscire dall'ipocrisia. Ma non no, possiamo dire che il TG3, i giornalisti del, ma non possiamo non dire che, ma non possiamo dire che i giornalisti del TG3 sono i reggi microfono del PD. Non sto dicendo che sono, perché sono degli ottimi professionisti, oh, ma certamente non daranno mai una notizia sgradita al PD, o perlomeno non, questo è il problema. Questo quindi, non mi pare, insomma, mi pare di sì, che magari sono divisi fra Dalemiani e Veltroniani, fra Prodiani e non Prodiani, però sono interessati anche loro, ma sono sicuramente, cioè sono il microfono del PD. Sono, diciamo, non daranno, no, non ho detto che sono il microfono. Cinghia di trasmissione. Cinghia di trasmissione. No, ho detto che loro sono sicuramente non sgraditi e non danno un'informazione che potrebbe arrecare danno alcuno, un documento alcuno al PD e alla sinistra. E come ha fatto lei nel 2000, come sembra ha fatto lei nel 2005, anche loro alzano il telefono e chiamano dirigenti Rai che ma guardi possono... la carriera come si fa, no? Che si fa per concorso, me lo dica lei, me lo dica lei, appunto, mi dica lei come avvengono con gli appoggi politici. Beh, insomma, voglio dire, non solo penso... con gli appoggi politici, no, solo no, il problema è che quando uno vale è giusto che va avanti e fa delle carriere però rapide, però vorrei vedere, insomma, quanto pesa nella storia, perché ci stanno ascoltando magari anche tanti giovani ragazzi che vorrebbero fare i giornalisti, no? E lei dice ci vuole l'appoggio politico. Alla Rai non c'è niente da fare, adesso mettetevela via, non c'è quasi niente da fare, no, non per quello. La Rai non c'è quasi niente da fare perché siano, come tutte le aziende editoriali, grandemente sature di personale. Quindi penso che finché poi c'è un bacino di utenza di precari, quindi a casa, giovani giornalisti a casa. Io so giovani giornalisti in Italia, assumono gente, c'è un bacino di precari enormi. Appunto. Che devono essere stabilizzati e ci vorranno anni e anni. Oggi fare il giornalista, per essere insomma realistici, io quando ho fatto il giornalista nell'84 la ritenevo una professione dignitosa, seria e che dava prospettive. Oggi se dovessi scegliere non lo rifarei. Perché una professione mal pagata, quando iniziava a fare giornalista, che a un certo punto doveva chiamare Berlusconi per fare carriera. Ma io non ho fatto carriera con Berlusconi. No, tanto è vero, però che lo so che non ha fatto. Io ho fatto 22 anni di Rai per diventare certo vice direttore. Noi ci abbiamo vice direttori che sono diventati tali in 5 anni, però, e non si sa sulla base di quali meriti. Tipo chi? Ma non mi faccia, mi dia il tempo di fare una ricerca e glielo dirò. Però ce ne sono parecchi. Dobbiamo chiudere. Grazie a Francesco Pionati. Il problema è che gli italiani mi conoscono e mi stimano. Cioè, andiamo con l'Alleanza per l'Italia per concludere. No, Vieni Avanti Cretino. Ci vuole. Vieni Avanti Cretino. È la giornata di Vieni Avanti Cretino. A domani 18:30. Grazie. Il Padre Eterno allora un po' sudetto si tolse uno stivale e fece il nostro stato. Ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il padrone al contadino. Oh, oh, Vieni Avanti Cretino. Risponde l'operaio al suo padrone. Radio 24. La passione si sente.